a Mario, te conviene rifiutare, non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo, ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera, e questo dice il popolo di Roma. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Venga, signor Capone. Vuole battersi con me, qui, subito? Avanti, venga! Che c'è? Ha paura quando non è tra i suoi uomini? Ha paura di farsi avanti da solo? Vuoi che no, ci battiamo adesso? Vuoi andare subito al tappeto? Chi è, brutto figlio di puttana? Cosa? Mi parli in questo modo di fronte a mio figlio? Fanculo, te e la tua famiglia! La notizia è questa: Grillo critica Napolitano, non è una novità ovviamente, ma lo critica per l'incontro con Berlusconi, cioè Napolitano ha incontrato semplicemente il capo di uno dei partiti, il capo vero di uno dei partiti che formano la maggioranza, ma secondo Grillo non doveva invitarlo, perché altrimenti poteva invitare anche Miccoli, il calciatore del Palermo, come sapete, che intercettato ha detto che Falcone è un fango. È come se avesse invitato Al Capone. Al tappone adesso li tiene per le palle. E finì si sta sciogliendo con queste frasi fatte. Letta dice delle cose incredibili. Vabbè, un po' alla frutta Grillo, Parenzo, diciamo la verità, cioè, se ne inventa uno al giorno, se ne deve inventare uno al giorno. Comincia, no? A diventare una persona anche pericolosa. Bah, pericolosa, ma che pericolosa, dai. Beh, ma ripete, metti... le stesse cose, Al Tappone ha invitato. Nel momento in cui però mette in dubbio anche il fatto che il capo dello Stato non può, con una battuta, però ormai non è una battuta, non è un comico, è un leader politico. Ma sì, leader... ma che pericoloso, dai, su, lascia perdere, pericoloso. Beh, si diceva lo dai. Stesso di Bossi quando Bossi diceva prenderemo i fucili. Vabbè, ma che ha detto? Cosa. Ha detto che ha sbagliato, ha invitato. Ha trattato come un leader di partito, come un leader politico. Sì, va bene. Intanto torna Forza Italia ufficialmente, lo annuncia il segretario del PDL Alfano. Sentite con quale parole di enfasi. Alfano, conosce Alfano? Sì. Segretario del PDL, ministro degli interni, nonché anche vicepresidente del Consiglio. Ma è il segretario del PDL? Beh sì, segretario, sai, non conta nulla là. Comunque sì, segretario del PDL, comanda. Ma non sapevo, ma comanda Berlusconi, non conta niente. Quando ci tornerete? Stiamo accelerando e penso che il progetto di ritorno a Forza Italia possa ritenersi un progetto avanzato e mi verrebbe da dire pressoché irreversibile. Un processo irreversibile, tanto da una stoccata alla Santanchè, eh? Capisco la gioia di Daniela, ma lei in Forza Italia non c'era. Capisco anche la gioia di chi non ne ha mai fatto parte, come Daniela Santanchè, che esordirà in Forza Italia. Per noi c'è l'emozione del ritorno al simbolo che ha accompagnato l'impegno di tantissimi di noi. Oh, Brunetta è ufficialmente diventato il grande censore, il grande osservatore di quello che avviene nella televisione pubblica, sforna dati in continuazione, signor Brunetta. Questa volta, dopo l'annunziata, se la prende anche con Fazio, e scoprendo l'acqua calda in realtà, cioè che Fazio invita tutta gente di sinistra, cioè che la maggior parte delle persone ospitate a Rai 3 nel programma di Fazio sono tutte di sinistra. Beh, non è che ci volevano studi e altre cose. È un problema politico. Sì, ma voglio dire, ma era chiaro sin dall'inizio. Quando vuole fare attaccare la par condicio anche i programmi non ma politici. Ma che c'entra la par condicio? Adesso non cominciare a fare l'uomo di Rai 3. Qual è il problema? Cioè, ma infatti secondo me è ridicolo, è e ridicolo fare. Sono alla prova del cuoco, non mi hanno mai invitato. Dice, guardi, signor Brunetta, non è mica scritto da nessuna no, parte. No, ma non c'entra niente il programma politico, perché invitano anche i politici là. Ha fatto un calcolo di persone invitate ma da Fabio Fazio. Ha fatto un calcolo calcoli, e ha scoperto che la maggior parte degli ospiti tra politici e non politici è gente di sinistra. Benissimo, applausi, bella scoperta. Già lo sapevamo, non c'era bisogno che ce lo dicesse Brunetta. Intanto la Biancofiore dice che Marina Berlusconi si è sporcata le scarpe in azienda. Beh, insomma, sporcata le scarpe. Adesso ha preso in mano un'azienda ereditata dal padre. Poi sarà bravissima, però non è che si è sporcata le scarpe in azienda. E poi lei è un manager eccezionale che si è sporcata le scarpe in azienda, ha messo olio di gomito, ha dimostrato di avere una capacità manageriale, quindi di tenere insieme una squadra molto forte, quindi credo è donna, e lasciatemi dire che oggi donna in politica è vincente, ovviamente non mi sto riferendo a me stessa, ma soprattutto al fatto che è molto difficile pescare una donna con le mani nella marmellata. Beh, a parte che insomma bisogna vedere, comunque a me questa stronzata che ci vuole per forza una donna, no? Cioè molti dicono ci vuole una donna, una Renza, dicevano queste del PDL, una Renza, ci vuole per forza una donna, non si capisce perché. Beh, anche se una è una pippa, per forza una donna. Beh, si capisce, dopo lo scandalo Rubi potrebbe essere un interessante, come dire, ripulisti dell'immagine, no? Non stai, hai detto una stupidaggine, ma che non si è nemmeno capita in realtà, cioè... Non c'entra niente con questa non roba qua. No, non hai capito perché. Il fatto che tu non capisca non è un problema. Ma no, ma non è nemmeno una battuta. Dopo lo scandalo Rubi, una donna. Ma constatazione, dico. Ma non c'è nessuna constatazione. Un partito con un suo leader che è stato. Sì, ma non c'entra niente. Non è che vogliono una donna per ripulire l'immagine di Berlusconi. Può essere utile, una bella operazione anche di marketing. Vabbè. Mettere a capo di quel partito una donna. Hai detto una stupidaggine, ma non c'è problema. Ma questo lo valuterà. Ma hai detto una stupidaggine, secondo me. Una stupidaggine. Ma sì, ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Niente, va bene. Nulla. Niente. Siamo qui 800 24 00 24 con Massimo Cacciari. Buonasera. Buonasera. Come sta? Abbastanza bene. Ce la caviamo? Grazie, professore. Ce la caviamo di salute. Lasciamo perdere. Beh, sì, soprattutto questo governo, professor Cacciari, perché qui è abbastanza curioso, cioè si va avanti di rinvio in rinvio. Cioè l'IVA, l'IMU, adesso pure gli F-35 e tutte altre cose vengono rinviate a data da destinarsi. Come mai, secondo lei? Per realizzare alcune anche minime manovre occorre reperire le risorse, anche quei pochi milioni che servono per sistemare esodati, incentivare qualche assunzione di giovani, eccetera, sì, eccetera, occorre recuperare quei 2-3 miliardi che al momento non sanno dove pescare. Beh, però è abbastanza curioso, cioè non è tanto curioso, si sapeva che i soldi non c'erano, Sì, d'accordo. Secondo me sarebbero stato più serio e più attendibile se questo governo, ma non poteva essere questo governo partiva con la necessità di dover, se non altro, fingere di realizzare le promesse di Berlusconi, e se fosse partito con alcune riforme senza spesa che il paese aspetta da decenni. Sburocratizzazione, delegificazione, sì, semplificazione. Vabbè, che voto diamo a Letta fino adesso? 4? No, quattro. No, come no? No. Letta sta facendo quello che obiettivamente poteva fare, no, davvero. Non... È un governo che ma pure su CF-35 non c'è un po' un'ipocrisia, professor Cacciari? Cioè, questa cosa di chi dice con quei soldi lì si possono mettere su degli asili. Beh, volendo si può. Ma sì, si può, ma si possono anche magari chiudere qualche altra fabbrica. Stiamo attenti, perché l'apparato militare, anche un apparato industriale militare, gli aerei, le navi, eccetera, le fanno degli operai. Quindi è evidente che se si chiudono gli investimenti per l'esercito, si chiuderà anche qualche altra azienda, questo è pacifico, no? Cioè, l'apparato militare è un apparato industriale militare, dovremmo saperlo, no? Per cui è un po' ipocrita chi dice si possono prendere quei soldi e spostarli sugli asili, spostarli Ma sì, si possono, certo, si possono, e dopodiché avremo qualche migliaio in più di casi integrati. E poi le ripercussioni sull'industria militare, questo dice. Certo, evidente. Vabbè, questo è chiaro. Senta, ma questa cosa di Marina Berlusconi a lei sembra possibile? Ma io credo che sia del tutto già decisa in qualche modo. E chi vuole che mettano a capo di questa Forza Italia? È un incubo, che noi siamo ancora qui 2013-2014, sì, a ragionare di un ritorno a Forza Italia, sì, è qualcosa che sa da incubo. Addirittura. Sarebbe come, non so, qualcuno adesso dicesse adesso torniamo al PC. Torniamo al Partito Comunista, un po'. Non lo fa, cioè le dico, viviamo in una situazione di incubo. Vabbè, il 94 non è proprio. Ecco, ma allora comunque sia, Marina Berlusconi è la carta che hanno, non c'è dubbio alcuno. Parenzo prima non diceva affatto una stupidaggine. È chiaro che puntare su Marina Berlusconi, puntare su una donna oggi per loro, dopo Berlusconi, perché dovranno pure pensare al dopo Berlusconi, e dopo il flop pazzesco del personaggio, del leader Alfano, è un must per loro. Vabbè, un must non perché donna, perché si chiama... Una donna è Marina Berlusconi, che eredita anche quello che obiettivamente è un certo carisma di suo padre. E quindi è una scelta intelligente se faranno questa scelta. Ma nello stesso tempo è una sciagura, perché noi è la rappresentazione più pazzesca del blocco totale politico, sociale, culturale, etico, mentale di questo paese. Ma almeno della destra, magari, no? O del paese intero. Beh, insomma, non è che gli altri poi stiano ridendo. Insomma, cioè, lei vede una sfida Renzi-Marina Berlusconi, la vedrebbe bene? Insomma, sarebbe una bella sfida per Renzi, Sarebbe lei l'ha conosciuta? Mica la roba semplice per Renzi, Ah, no, beh, ma lei l'ha conosciuta Marina Berlusconi? Malissimo, l'ho incontrata una volta, due volte, non ricordo più, ma non la conosco affatto. Che impressione le ha fatto? Beh, tutti mi dicono, persone di cui ho molta stima come intenditori, mi dicono che è un bravissimo manager, mi dicono. Persone che non hanno alcuna simpatia per Forza Italia, per suo padre, ma mi dicono che Marina e sua figlia è molto brava. Cioè, per lei, cioè, secondo lei non ci sarebbero problemi nel passaggio in politica, no? Per esempio Brunetta l'altro giorno ha detto le dinastie non mi piacciono, bisogna le cose... Beh, credo che non gli piaccia, perché è chiaro che mi pare, da quanto ho sentito dire di Marina Berlusconi eccetera, che è una grande accentatrice, che è una che vuole fare lei, che darebbe molto spazio, diciamo, alle seconde file. Ai Brunetta di turno, No. Ma ai perdenti di turno, perché poi questo Brunetta è inaudito. Tutte le sfide tutte le volte che ha cercato di farsi normalmente leggere è stato sconfitto. Lei dice anche nei momenti di massimo splendore di Berlusconi. Quando si candidò, per esempio, a sindaco di Venezia contro Orsati. Due volte, mica una. E adesso vuole passa il tempo, tra le altre cose, a fare queste pubblicazioni su l'Annunziata, poi su Fabio Fazio, scoprendo che invitano soprattutto gente di sinistra. Ma è una scoperta geniale, devo dire, no, professor Cacciari? Ma non lo so, io sono stato da Fazio una volta solo in vita mia, con Enzo Bianchi, non ho più pali di idee di chi inviti Fazio. Sì, ma poi chi se ne frega, da un certo punto di vista, ma no? Poi chi se ne frega, appunto, chi se ne frega. Cioè, passare il tempo a dire in 60 puntate ci sono stati 20 ospiti di sinistra, manco in Bulgaria, due del PDL, eccetera, vabbè, insomma, sì, uno Poi mi pare assolutamente pazzesco, insomma, che vadano ancora avanti questa storia delle televisioni loro, insomma, che tacciano. Cioè, che Brunetta parli di televisione, di occupazione, vabbè, insomma, di televisione. Voglio dire che parlano di televisioni, di giornali, ma cosa vogliono avere? Insomma, mi pare che possano anche accontentarsi, sembra che la loro parte ce l'abbiano, mi pare, no? Di quello. Traffico, torniamo subito, 800 24 00 24. La Zanzara. Le zanzare di casa mia. Allora, l'ex presidente del Consiglio Monti, senatore a vita, dice che, essendo apprezzato solo all'estero, ogni tanto gli viene voglia di non tornare in Italia. Uno potrebbe anche aggiungere, caro Parenzo, la famosa espressione: qual è? Chi se ne aggiunge? Beh, però in verità no, perché dovrebbe essere un problema la fuga continua di cervelli nel caso. No, ho capito, però insomma, non è proprio, ma non è proprio, come dire, no, una cosa molto fine da dire, non è una cosa da Monti. Viene voglia di non tornare. E sei senatore a vita, impegnati, punto e basta. In Europa e al di là, diciamo, a me basta varcare il confine per essere così riconosciuto che non verrebbe più voglia di tornare in Italia. Vabbè, questo però è il vecchio Nemo profeta in Italia. Esce l'amarezza. In Italia ci vorrà qualche mese in più, perché questo becca comunque. Cioè, a Monti lode il culo che in Italia non viene apprezzato, non viene riconosciuto, non vengono riusciuti i suoi grandi meriti. Sì, vabbè, dice lui. Invece all'estero tutti quanti lo elogiano, eccetera, eccetera. Bah! Ti giuro, mi confondi, ti sento respirare. Siamo qui con Massimo Cacciari. La condanna di Berlusconi. L'altro giorno Giuliano Ferrara ha fatto una manifestazione a Piazza Farnese: siamo tutti puttane. Lei si riconosce in questo slogan, Cacciari? veramente no, proprio. ho parecchi difetti, ma quello proprio né in senso reale né in senso metaforico, proprio quello è una virtù che mi manca. Ma secondo lei le ragazze che vanno alle sale degli Arcole sono puttane, prostitute, come le ha dipinte la procura di Milano? Mi pare che l'abbiano esplicitamente dichiarato, no? Cioè, alcune di loro dicono che si facevano pagare. Poi c'è un mestiere come un altro, ma insomma, se una donna si fa pagare di solito, o un uomo si fa pagare, di solito si chiamano così. Non lo so, può darsi di no. Beh, può darsi di sì, può darsi di no. Cioè, secondo lei andavano lì per farsi pagare per prestazioni sessuali, sì o no? Per cosa volevi che andassero lì? Non lo so, magari non erano prestazioni sessuali, non so, erano palpatine. Sempre di prostituzione si tratta, secondo lei? Ma che ne so io, se era io so una cosa sola, che è assolutamente inaudito, e in ogni paese del mondo, ogni paese del mondo, avrebbe posto fine a qualsiasi carriera politica, guardi Strauss-Kahn, guardi il comportamento di un leader politico come quello che è stato indubitabilmente accertato, punto. Dopodiché che facesse festini, che andava a letto con quella, con quell'altro, oppure no, eccetera, mi è del tutto indifferente. Io so, e questo credo che lo sappiano tutte le persone, al di là dell'inchiesta penale, che un leader politico che abbia quei comportamenti, non neanche un presidente del Consiglio, ma un qualunque leader politico, che in modo così evidente abbia comportamenti del genere, finisce nel giro di 24 secondi in qualsiasi paese del mondo. Questo io so. Ma è un puttaniere. Lo sappiamo tutti con la di tribunali, di inchieste, di sentenze, eccetera, non me ne frega niente. Però molte cose sono uscite fuori con questa roba qui, non tutto, alcune dicevano pure io ho passato le serate con Berlusconi, eccetera, cioè l'afflusso di donne non era un mistero, però molti dettagli sono usciti fuori con le intercettazioni. Le ripeto, certo, sono dettagli, sono cose che ormai sono evidentissime, che sono state accertate, che nessuno mette in dubbio, no? Dopodiché c'è qualcuno che dice ma insomma sono dei festini, sono dei bunga bunga, sono, come si chiama, dei burlesque. Burlesque, io so che in qualsiasi paese civile un leader politico che ha quei comportamenti viene fatto fuori nel giro di 24. Lei lo chiamerebbe puttaniere, come ha fatto, che ne so, Lerner? Ma non lo so, non lo chiamo niente, io dico semplicemente quello che ho detto, non so se erano puttane, se non erano puttane. No, certo, lui puttaniere. Una donna che si fa pagare di solito lo è, ma insomma non importa, è secondario. Tutto ciò è secondario, non mi interessano le oggettine, mi interessa il fatto che una persona in buona fede non può non condividere. In qualunque paese del mondo una persona del genere viene fatta fuori immediatamente. Ed è uno scandalo, come dice Grillo, che viene invece sentito dal Presidente della Repubblica, addirittura come Al Capone. Ma come deve fare? Napolitano deve sentire il leader di partito. Grillo è fuori di segno, oppure così continua campagne demagogiche prive di ogni fondamento. Cosa vuole? Che un Presidente della Repubblica impegnato nei ragazzi, il governo così obiettivamente debole, non cerchi di sentire e di trovare un qualche accordo con il leader di uno dei maggiori partiti che sostengono il governo? Vuole che non lo riceva? Non è che gli può, siamo fuori di segno. Non lo può mettere fuori gioco così. Ma è evidente, mi pare, fuori gioco Berlusconi bisognava metterlo politicamente. Se ci fosse stata un'opposizione a Berlusconi, un'alternativa a Berlusconi credibile, sarebbe andato a casa nel 94 Berlusconi, quando è andato in crisi il primo governo Berlusconi con Bossi, se dall'altra parte ci fossero state delle persone dotate di buonsenso. E se fosse interdetto dai pubblici? Strategia politica alternativa. Berlusconi non è stato fatto fuori politicamente, e la responsabilità di questo è tutto del centro-sinistra, dei vari Ulivi, dei vari Prodi, dei vari D'Alema. Questa è la situazione. Cioè dovevano farlo fuori politicamente all'epoca? Politicamente, certo, e l'hanno fatto risorgere invece politicamente, prima con la bicamerale, poi con il pateracchio D'Alema Cossiga e via dicendo. Ma vogliamo scherzare? Poi con gli Ulivi ormai stracotti dell'ultimo governo Prodi, il fallimento dell'ultimo governo Prodi, con l'imbarcata. Senta, professore, era chiaro che non poteva governare. Ma vogliamo scherzare? Ha fatto... Se Berlusconi ce l'abbiamo ancora dove va bene, è responsabilità politica del centro-sinistra, di chi? Ma Berlusconi farà cadere il governo Letta, secondo lei, oppure la sua... Ma neanche per sogno, il governo Letta è la sua assicurazione sulla vita, vuole scherzare, farà di tutto per tenere in vita il governo Letta. Qualsiasi altro governo sarebbe peggio per lui, assolutamente. Ma scherza, Berlusconi ha rischiato la pelle ha fatto una grande partita da pokerista Berlusconi dopo le elezioni, cercando appunto, perché bastava nulla dall'altra parte. bastava che dall'altra parte ci fossero dei giocatori relativamente abili, che Berlusconi l'ha fatto fuori, no? Parenzo. Dico, Letta è la migliore garanzia per di tutto per Berlusconi. Sì, sì, l'assicurazione sulla vita. È un'assicurazione sulla vita. Sì, sì, ma è evidente. Ma, scusa, il vicepresidente del Consiglio, il ministro degli interni, vari ministri, presiede le commissioni, è al tavolo, decide le cose e ti pare che per una condanna fa cadere il governo? E perché? Ma cioè... neanche per sogno. Ma il problema però non è, capisce, ci sono dei meccanismi che poi diventano automatici. E se arriva l'interdizione? Non è che farà nulla per far cadere il governo. Però ci può essere una mozione sulla ineleggibilità, oppure una sentenza che gli toglie appunto e allora a quel punto l'uomo è spacciato, capisci? Senta, perché a sinistra si incazzano per esempio se Renzi va a pranzo con Briatore? Cioè, è una cosa incredibile questa cosa qua, o no? Molti. Io non so come una persona onestamente possa andare a pranzo con Briatore. Perché lei andrebbe non andrebbe mai con Berlusconi, andare a pranzo con Berlusconi se sei un leader politico ti tocca, ma andare a pranzo con Briatore perché? Qual è il senso di andare a pranzo con Briatore? Lei non andrebbe a pranzo con Briatore? Ma neanche per sogno, né lui con me, chiaramente, perché ci sono per fortuna delle incompatibilità di carattere tra le persone. Cioè, lo considera un cafone, lei lo considera un cafone? Ma un cafone, mega galattico, così, no? Cioè, universale, cioè l'idea platonica del cafone lo considero. Magari può essere un dialogo interessante. Scusi, professor Cacciari, l'incontro tra un super cafone, un super cafonal per dirla alla D'Agostino, e il professor Massimo Cacciari potrebbe essere invece foriero di grandissime cose. Scusi, non accadrà perché per fortuna appunto ci sono delle cose come dicono i fisici e i logici, delle cose che non hanno alcun rapporto tra di loro. Però è sempre circondato da bellissime donne, questo bisogna dirlo. Questo è vero. Su quelle potrei fare un'eccezione. È vero che anche a lei non mancano le belle donne, in genere. Ma di altro tipo. Lei dice che quelle che frequenta Briatore a lei non piacciono. No, per carità, sono bellissime donne, per carità. Però... quelle che amo frequentare io sono di altro tipo, ma non intendevo di altro tipo dal punto di vista etico, morale, no, eccetera, eccetera. Però con più classe, con più classe, dice lei, no? Ma no, ma per carità, neanche quello, proprio dal punto di vista estetico. Ma no? Mica la signora Gregoraci non le piace, la moglie di Briatore. Come? La signora Gregoraci è bellissima donna, la moglie di Briatore. Non l'ho presenta adesso. Va bene, grazie. Salute. Pubblicità, saluti. Grazie. La Zanzara. Ti faccio ascoltare un amico tuo, Davide, dai. Ti faccio ascoltare un tuo amico, dai, un tuo carissimo amico. Eccolo, È da tanto tempo che non mando un abbraccio affettuoso ai miei amici giornalisti. Caro Gerardo Greco, un abbraccio. Sei uno dei migliori giornalisti della RAI, veramente, uno dei migliori. E in assoluto, non solo della RAI. Tu, insieme a Formigli, Cruciani e tanti altri... siete veramente dei grandissimi giornalisti. Cercava di prendere per il culo il signor Mandarà. Era il tuo amico Mandarà, Parenzo, eh? Era Mandarà? Signor Mandarà, sì. Mandarà, Mandarà, che hai la colpa di aver reso celebre questo Mandarà. L'unico talento che hai era quello di riprendere Grillo. Ma è sempre in Italia Mandarà? Sì, è sempre in Italia. Ha detto che rimane per problemi coi figli. Ma rimane, infatti c'è stato un crollo del PIL della produzione. Per i figli gli rimane? Sì, dice che ci sono problemi. Che rimane in questo paese di merda nonostante tutto. Mafiosi, pieno di mafiosi. Pieno di mafiosi, eccetera. Perché i figli non si adattano all'estero, ci sono problemi. No, ma nessuno lo trattiene, guarda. Lo porto io all'estero, anche se non ho la macchina, guarda. Non ho neanche la patente, ma lo porto col motorino. Col Vespino e pago la benzina e lo accompagno io all'estero, con tutti i figli sul motorino, lo porto io. La moglie di Giuliano Ferrara sostiene Anselma Dell'Olio, un mito, una leggenda, numero uno assoluta, dice che le olgettine sono meglio delle donne di sinistra. Vabbè, e le olgettine sono meglio e meno ipocrite di chi? Ecco, di chi magari c'ha una storia con un dirigente di partito sposato con figli. Ma no, non hai detto c'ha una storia. Hai capito? C'è una botte via e vengono mandate a fare il numero nelle piazze o a fare le fotocopie. Cioè sono meglio e meno ipocrite di quelle che si fanno scopare gratis, così hai detto. Sono sceme. Dai... secondo il nostro amico Malan. Te lo ricordi, di senatore Malan? Malan non vuol più parlare con noi, Malan. Sì, vabbè, lasciamo perdere, chi se ne frega. Cioè, diciamo che non piango, ecco, insomma, no, non ci penso. Non sto lì la notte a pensare, oddio mio. No, no, ho tanti altri problemi, non è che la sera torno a casa con cazzo, non ho parlato con Malan. Ne possiamo tranquillamente fare a meno, signor Malan. Anche lui di noi, probabilmente. Sì, ma molto probabilmente, sì, dice, Berlusconi merita più di tutti la nomina a senatore a vita con delle motivazioni particolari, sentiamo. Berlusconi senatore a vita, come lo vedrebbe? Se esistono i senatori a vita, credo che sarebbe il personaggio che più lo merita attualmente, perché meriti sociali ne ha avuti sul serio, ha avuto anche i meriti culturali che vengono previsti, perché al di là di tutto la televisione è cultura. Meriti televisivi, però abbiamo i titoli del TG3, sentiamo come il meraviglioso telegiornale, cari ascoltatori, della signora Berlinguer, il TG3, dipinge la giornata. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Letta a Bruxelles, il rinvio dell'IVA non comporta nuove tasse, ma Brunetta, PDL attacca Saccomanni, la copertura trovate un raggiro. Squinzi, toccato il fondo della crisi, persi 700.000 posti, il governo va davanti, la Corte dei Conti tasse troppo alte, ma non si può rinunciare al rigore. La fragile tregua nella maggioranza, il PDL ora forza sulle riforme, chiede di inserire la giustizia, il PD replica non è negli accordi. Il lodo Mondadori in Cassazione, per il procuratore generale sia il risarcimento della Fininvest alla CIR, ma un po' ridotto. Udienza preliminare sulla presunta compravendita di senatori, l'ex parlamentare PDL De Gregorio chiede il patteggiamento, Berlusconi rischia il rinvio a giudizio. Chiede scusa tra le lacrime per le offese a Giovanni Falcone, il calciatore del Palermo Miccoli, ieri interrogato in procura sui suoi rapporti con il figlio di un boss. Nessun colpevole per la scomparsa della piccola Denise Pipitone, assolta l'unica imputata, la sorellastra Jessica Pulizzi, per il padre di Denise e di Jessica non c'è giustizia. Il super capone, eccolo qua, porta il suo nome, non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fa per avere, non te ferma, il super capone, eccolo qua. Ma un capone mega galattico così, no? Cioè, universale, cioè l'idea platonica del capone lo considero. C'è crisi a Wall Street, la piotta romana non si fa mai male. Le parole di Massimo Cacciari su Briatore, il prototipo del cafone, secondo Cacciari. Non andrei mai a cena con lui come ha fatto Renzi, a pranzo, quello che è. Io non so come una persona onestamente possa andare a pranzo con Briatore, con Berlusconi, andare a pranzo con Berlusconi, se sei un leader politico ti tocca, ma andare a pranzo con Briatore perché? Scusa, se andare a pranzo con Briatore. Siamo qui 800 24 00 24. Franco da Roma, buonasera Franco. Caro Franco, Bruciani, come sta? Guarda, ma io vi do il tormento, quanto è vero, ma io dico una cosa, no? Sì, sì, dimmi. I vostri interlocutori sì. Parlano bene, cioè si esprimono sì, bene, e allora? E allora poi che succede? Sì. Cioè, oltretutto prima ci informavate su tante piccole cose, anche così un po' particolari, diciamo così, cose che erano un po' tra virgolette segrete, no, di quello che facevano, ma mo sono sempre a divanaccio. Caro Franco, c'è una cosa che si può fare nella storia della vita: prendere la radio che lei ha davanti e fare tic tic, no, cambiare no, stazione. No. E come no? No, capito, la libertà sì, come ce l'hai tu di parlare, ce l'ho pure io. E c'ho la libertà pure di ascoltare. E allora perché mi dici di spegnere Radio 24? No, io non ho detto quello. No, ma tu puoi tranquillamente fare a meno dalle 18:30 alle 21, non c'è nessun problema, caro Franco. Ma no, perché io... Ma io infatti voglio che ma tu... Ma no, c'ho la miseria. Guarda, io perché non vi posso stare vicino, solo vedrai una botta, cioè, ma possibile, vai? Ma con queste sboccacciate, quello che stava parlando tranquillamente. Ma chi stava parlando tranquillamente? Cacciari. Ma che abbiamo detto? Scusa. Parolacce. Ma quali parolacce? Abbiamo detto mai. Puttana. Ma che dici? Ma quale puttana? Quale puttana? Avete iniziato la trasmissione con non so chi era quell'altro sozzone che ha detto che ha cominciato bello. Ma con chi? Bello. Ma che dici, Franco? Ma guarda che la trasmissione vostra è registrata. Io mi sto dicendo stupidaggini. Ha capito. Ma vabbè, no. Ma tu sei fuori di testa comunque, No, io non sono fuori di testa, perché io non sei completamente fuori di testa. No, assolutamente completamente fuori di testa. Ma non mi devi offendere, perché io non ti sto offendendo, no. No, ma fuori di testa in senso buono. Ti sto solamente richiamando un po' a che? Un po' di buon gusto, come si dice, di bon ton, no? Bon ton, ma ti pare che tu mi invidi al bon ton? Ma dico, sei matto o no? Ma come sono matto? Ma sei normale o no che io fai il bon ton? Bon ton, cioè, ma quale bon ton? Dai, su, bon ton. Ma come no? Ma come si fa, insomma? Ma no, ma non è possibile una cosa del genere, no? Sì. Su una trasmissione poi che ecco. Ma tu lo sai che tu lo sai che la parola cazzo disse Italo Calvino una volta? Sì. Che lo prende chi non ce l'ha. No, ma stai tranquillo. Ma stai tranquillo, vedi che sei più violento di me, sei più. No, perché lo so dove vuoi arrivare con Italo Calvino. No, una parolaccia di parolaccia di espressività straordinaria, senza pari in altri idiomi. Capito? Che bello! Che bello! Quanto è bello. Allora secondo te. Ma qual è il tuo problema, scusa? Ma il mio problema, io tutte le sere faccio un viaggio da Roma e vado in provincia. E allora? No, e porto due ragazzini una persona a bordo. Ma non è per piccoli, Mi piace. E ho capito, ma resta collegato lo stesso, ma che ti importa, due parolacce e bambini non hanno mai fatto male, dai, su. Ma che vuoi, ne sento di tutti i colori, adesso si spaventano se sentono la radio qualche cazzo o qualche cosa così, dai, smettila. Dai. E far bravo, dai. Dai, su. Fa bravo che io ti voglio bene perché sei una persona intelligente. E allora ti voglio bene anch'io e stai tranquillo. No, come quell'altro che ti sta dicendo. Quanti anni hanno questi due ragazzi? Quell'altro uno ce l'ha 9 e uno 12. Ma tranquillo, ma sai che sentono a scuola, su, dai. Andiamo avanti così. Ti abbraccio, ciao. Claudio da Verona. Fatemi sentire. Claudio, io, te devi chiamare, io che faccio? Ti chiamo io, sei impazzito. Claudio da Verona. Pronto? Sì, dica. Salve Cruciani, salve Paletto. Allora? Ciao caro. Guardi, io mi rivolgo a tutte e due, però di più mi rivolgo al signor Parenzo. Bene, così si risveglia. Rimarrà un mediocre, non un mediocre, ancora. Un mediocre. Che è un mediocre. Ma perché? Lasciatelo stare Beppe Grillo, lasciatelo stare. Non andate contro Beppe Grillo. Ma che vuol dire non andiamo? Lasciatelo stare. Che vuol dire lasciatelo stare? Scusate. Ma scusate, basta che faccia la qualsiasi cosa che siete lì pronti a criticarlo, ma perché ma non ha fatto bene? Ma nessuno lo critica, amico mio, amico mio, da napoletano. Ma Berlusconi, ma scusa un attimo, ma napoletano, ma che cosa deve fare? Deve ignorare Berlusconi? Deve dire no, tu sei stato condannato in primo grado per prostituzione minorile e per concussione e non deve farlo andare al Quirinale per parlare della situazione politica? Ma mica è Travaglio, mica è il Fatto Quotidiano, che pure intervisterebbero Berlusconi, qual è il problema? Ma allora scusi, non potrebbe paragonarlo ad Al Capone? Vabbè, ma lei è al delirio, eh. Abbiamo la borsa, ma torniamo come? Subito. Sono lei al è al delirio, borsa. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Meno male che Silvio c'è. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Ma se Berlusconi, mi chiamo per assurdo, mi dicessi, guarda, io voglio tua moglie, no? Voglio fidanzarmi con tua moglie. Lei cioè, che no, che fidanzarmi, voglio andare a letto con sua moglie, lei che dice? Vabbè. Se la moglie ci sta, mica io mi metto di traverso. Ma se mia moglie ci sta, perché no? Non sono geloso perché non lo fa sicuro, ha capito? È perché rispetta le donne, rispetta le famiglie. E non lo farebbe mai. Lui è un vero gentleman. La zanzara è l'imprendibile insetto, che le più volte non lo vedi mai. spegni la luce, passa dalla TV. Ai ai, ti ha beccato. Siamo ai, qui la Zanzara 800240024. Io voglio dire una cosa, certamente sono orrende le frasi di Piccoli su Falcone, quel fango di Falcone uscite fuori dalle intercettazioni telefoniche. Appunto. Riguardo un'inchiesta, vabbè, questo è scontato, e non voglio ripetere cose che direbbe Parenzo, cioè scontate, però sentiamo, è una vergogna, una no, è una vergogna anche che escano queste intercettazioni. Bisogna Eccolo vedere là. Certo, bisogna vedere se queste intercettazioni sono ecco la provocazione. Servono, ma non c'è la provocazione. La provocazione fa tanto per fare. Ma non dire tanto stupidaggini, dire. È una vergogna. Io sarò il politicamente corretto, ma proprio la roba più sei più il banal Parenzo, come diceva Sgarbi di Galan, il banal grande, il banal, sì, il banal sarà, Galan sarà anche questo, ma adesso, ma ho già detto che fanno schifo quelle parole su Falcone, è ma altrettanto schifoso altro. È altrettanto va bene, d'accordo, è altrettanto schifoso il fatto che vengono pubblicate delle intercettazioni che non servono nulla, zero, all'inchiesta, lo posso dire o no? E lo dico con orgoglio. Beh, ti danno la dimensione, la cifra di chi è quella persona. Ah beh, allora sai. Eh beh, sì, eh. Allora beh, allora servono, sai. Servono. Ma per te non esiste etica pubblica. Ma che cosa dici? Se stai dicendo una roba inaudita. Tu hai il paradosso di dire. Senti, che era una telefonata di cazzeggio con un amico. No, è stato sputtanato a vita per una telefonata di cazzeggio di un amico, hai capito? Dici sempre che questa è una Senti, se di ci sentiamo io e te, se ci sentiamo io e te per non telefono, ci esce di tutto, hai capito o no? Ma esce dipende, di tutto. Ma dipende se non mi interessa, esce di tutto. Oppure davvero? Esce di tutto. Ma lascia perdere, esce no, di tutto. No, ma è fondamentale perché uno può dirlo cazzeggiando e scherzando, ma se uno davvero è quel che pensa, beh, questo gli dà uno spaccato e una Ma che vuol dire dà uno persona. Spaccato della cifra della persona? Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto che dà una dipende cifra della persona? Se io scherzando dico, parlando con te, dipende dal tono con cui lo dice. Senti, Davide, no? La cosa inaudita è che queste intercettazioni non servono a niente e hanno semplicemente sputtanato una persona, questo un giocatore di pallone. Purtroppo. Aspetta, stai calmo, stai tranquillo. Ma io sto calmo, un giocatore di calcio. Ricordare che non è che possono eliminare le cose che tu reputi inutili, te l'ha spiegato tante volte anche il tuo amico. Vabbè. Massimo Ciancimino. Andiamo. Massimo Ciancimino ti ha spiegato più sì, volte, Massimo anche Ciancimino, amico tuo, no? Cenchi e tanti altri, che tu non è che puoi a norma di legge stralciare quello che ti pare quando fai le intercettazioni. Adesso fra poco ti scrivo quello che ha detto Mentana su questa cosa di Miccoli. Pasquale, provincia di Lecco. Buonasera. No, poi ciao Luciani. Ciao sì. Luciani. Parenzo, ritorno nel bozzolo, va. Ritorno nel bozzolo. Nel bozzolo, nel bozzolo, amico mio. Nel Parenzo, bozzolo, ma in che senso? Amico mio, cioè Parenzo, è un periodo che c'ho la carogna sulla schiena quando ti sento, te lo giuro. Come mai? Dai? Come per due motivi. Allora, le persone la carogna chiamano sulla schiena, sì. Ah. Allora, per due motivi, le persone che chiamano e iniziano con no, niente, li taglierei subito, proprio subito. Vabbè, subito. Quello che c'entra Parenzo con questo, scusa. No, aspetta, ho detto due cose infatti, e la seconda cosa è questo, Parenzo, amico mio, sono sempre intervenuto, sto sempre difeso a spada tratta, ma amico mio, rimettiti il coltello tra i denti, scendi nell'arena a combattere, amico mio. Hai capito? Sì. Amico mio, da quando sei andato alla Rai, hai guadagnato più soldi, ma hai perso punti, amico mio. Scendi, fai battaglia, non sto lì e intervieni solo quando vieni tirato in ballo, amico mio. Scendi, qui è sangue e merda. Ma chi è questo? Il figlio di Cruciani segreto? Non è il figlio di Cruciani, dice delle cose sacrosante, lascialo parlare. Parenzo, è più grande di me. È un figlio che hai seminato il giro. Ma io non ho seminato nessuno, imbecille. Amico mio, riascoltati, ritorna in te. Ascolta le trasmissioni di 3-4 mesi fa e ritorna in te. Hai capito? È un cugino questo lontano. Non è cugino, che rispondi invece di dire cugino. Amico mio, non ripetere sempre le stesse cose. La battaglia devi fare. Rimettiti il coltello tra i denti e scendi nell'arena. Nell'arena, amico mio. È un parente tuo. Sangue e merda, amico mio. Sangue, ma sono Pasquale. A memoria la lezione. Pasquale Mundersago, stai zitto, ritorno nel bozzolo. Quando viene interpellato rispondi, adesso stai zitto e ritorna nel tuo bozzolo. Vabbè, adesso stai tranquillo però Pasquale, cioè, hai detto una cosa giusta, adesso non peggiorare la tua situazione. Ciao, grazie. La telefonata con cui stamattina il calciatore Miccoli ha chiesto scuse e lacrime faceva davvero schifo. Definire Falcone fango è orribile. Resta però un punto che nella corale sacrosanta condanna è stato completamente evitato. Quello su Falcone era il brano di una telefonata privata, prova di frequentazioni pericolose. In altri passaggi forse anche indizio di reato, ma pur sempre una conversazione privata. I resoconti delle intercettazioni servono a verificare ipotesi di reato, ma non a sanzionare pubblicamente piccinerie e orrori che però di per sé non sono illegali. Credo che anche Falcone l'avrebbe rimarcato. Cioè il fatto che Miccoli abbia definito fango Falcone non serve a nulla, a niente, semplicemente a sputtanare una persona e probabilmente a far conoscere l'inchiesta. Io dico solo questo. Rosa Maria, siamo d'accordo, il problema rimane un altro però. Oddio, lascia perdere l'altro problema. Il problema di cui stiamo parlando è questo. L'inchiesta è un altro discorso. E serve o no all'inchiesta questa intercettazione? Ma è evidente che non serve. E allora basta, Rosa Maria da Genova. Lo sanno anche i sassi. Io dico che è un problema. Basta, Rosa Maria da Genova. Non ho detto che non bisogna farlo. Bello, bello quel coltello tra i denti. Vabbè, numero allora, uno questo, non mi ricordo allora, come si chiama. Però, lo zio, si chiama Cruciani, questo qui, Leonardo Cruciani. Allora, zio. Ma non è mio zio, è uno che è intervenuto da solo. Beh, renditi zio, conto. Sicuro. Ma quale zio? È uno normale che interviene. Vabbè, perché io sono sente nel pozzo, allora, ma tu puoi tornare chi vuoi, come vuoi, puoi fare quello che vuoi. Rosa Maria da Genova. Ecco, allora va bene, ci sono. Coltello tra i denti, però è bello, eh. Allora, voi sapete che noi donne siamo vendicative, anzi direi che siamo proprio la vendetta in persona. Vero? Allora io vorrei dire alla signora idem iter tedesca che è stata cassata da vabbè, ormai è finita là quella questione. No, morta. No, adesso arriva. È morta ormai quella questione. Ma cosa è morta? Ma non si perde, adesso la facciamo rivivere. Allora, lei deve adesso, a farti un gran piacere, andare a spiluccare tre quarti del Parlamento. A vedere tutte le magagne, perché noi sappiamo che sono marci, d'accordo? Faccia una bella lista e noi la mandiamo come presidente del Consiglio. Ma che vuol dire? Scusi, io non lo so, che non ho capito. Che vuol dire? Ha capito bene? Non ha capito? No, non ho capito. Allora, la signora è stata cassata. Ah, dovrebbero fare un'indagine anche sugli altri parlamentari. Lei, ma lei, ma figuriamoci dentro. Se lei avrà voglia di fare un'indagine sull'IMU degli altri parlamentari. Vendetta, su, dai. La vendetta, va bene. Vabbè, arrivederci, grazie. Luca da Milano, buonasera Luca. Luca? Pronto? Dica. Buonasera, senta, io volevo dire, quando mi sono trasferito in città per studio, ho fatto quello che la signora di Padimeana ieri diceva, cioè ho preso delle scorciatoie per mantenermi. Cioè? Beh, le scorciatoie che sembrerebbe aver preso le oggettine, insomma. Che ha fatto? Ha fatto la puttana? Esatto, esatto. Il puttano, diciamo, no? Vabbè. Da lei come no, ma guardi, io non ho problemi, cioè ha fatto il gigolò. Esatto. Ora, io non mi sento assolutamente, la mia dignità non la sento calpestata, però posso dare dell'ipocrita prima di tutto a quelli di sinistra, perché utilizzano questa vicenda qui di Berlusconi solo e sicuramente perché non sanno batterlo dal punto di vista politico, allora gli vanno a guardare a camera da letto. Però do dell'ipocrita anche a quelli di destra, compresa la signora, la moglie di Ferrara che è intervenuta ieri sera. Perché loro sono scesi in piazza adesso a dire siamo tutte puttane, io sono puttana, io sono più puttana di te, tu sei puttana mia, ma solo per difendere Berlusconi, perché come diceva ieri giustamente Parenzo, quando è toccato a loro essere in Parlamento. Cioè lei dice c'è il contrasto tra Family Day, queste robe qui? No, ma quando toccava a loro, le puttane volevano fare delle misure restrittive per puttane e per i clienti. Sì, ma questo l'abbiamo sempre detto anche qua. Appunto, per cui, e adesso però scendono in piazza a dire siamo tutte puttane. E poi soprattutto, lei ha intervistato venerdì sera un don, non mi ricordo come si chiama. Farinella, sì, allora? Il quale ha detto che questa sentenza ridà un po' di dignità all'Italia. Vabbè, ma quella è Don Farinella, ragazzi. No, di che stiamo parlando? No, sto dicendo, allora senta, guardi, io mi ricordo benissimo che tra i tanti c'era anche qualche ministro della Chiesa, ok? Che faceva? Però ero interessato ai suoi primi anni a Milano. Lei per quanto tempo ha fatto il gigolo? Faceva quello. C'era una delle tante persone che incontravo. Cioè, non ho capito chi ha incontrato. Lei si è prostituita, è andato con dei preti? Con chi è andato? Sì, assolutamente, perché non c'è nulla di male. Ma intendiamoci, non è per dare questo adito. Ma dove? A Milano è successa questa cosa? Succedeva un po' dappertutto. No, ma lei che ha fatto? Cioè, si è prostituito con uomini di chiesa? Esatto, anche. Anche con uomini di chiesa, vabbè. Ma di alto livello, ecco, o appunto, preti normali, diciamo. Lì la dignità. Scusi Luca, le ho chiesto con alti prelati oppure preti? Guardi, no, cioè, guardi, le sto raccontando che mi è capitato anche di andare da una persona piuttosto in vista. Io della chiesa? Conoscevo. E quanto le pagava? Quanto pagavano queste persone? Non mi ricordo, non è importante. Ma come non è importante? È importantissimo, come no? Non è importante, se mi fa finire però. Sì, veloce che, però. Se mi fa finire, mi interrompe. Ora, quello che veramente è contro la dignità, io ricordo, guardi, non lo sto scherzando, mi portò uno di queste persone. Sì. E io andai in un'abbazia. Sì. E, E niente, vabbè, tutto in privato di notte, tutto nascosto. Ma alla fine, e qui veramente la dignità è sì. quello che dico, sono degli ipocriti, perché alla fine, quando fu il momento di pagare, sì. no? Mi pagare, che chiaramente quelli non erano certamente soldi, o comunque erano certamente soldi che provenivano forse da... vabbè, soldi dalla chiesa, comunque. Allora... va bene, e mi chiedo se potevo fare uno sconto per i poveri. Ma dai su, Luca, ma ti sta coglionando. Ma tu. Dai su. Bene, allora, vabbè, allora... verificheremo. Siamo come lei, siamo come lei. Allora, siamo qui 800240024, dopo queste clamorose rivelazioni di un ascoltatore da Milano, ovviamente tutte da verificare, con Maurizio Gasparri. Benvenuto, ecco, ben trovato alla Zanzara. Qua in collegamento, eccoci qua. Ben trovato, che sta a fare? Gasparri? Arrivo subito, sto salutando un amico. Ma che è, col taxi, dov'è? Ma sto fermo. Abbiamo salutato? Ecco, abbiamo salutato. Oh, in diretta. Ben ritrovato, come sta? La vita in diretta. La vita in diretta, cioè stiamo in diretta, noi io e lei, io stavo in diretta salutando una persona. La vita in diretta. Non era il noto programma. Ah, appunto, non è il noto programma. Oramai si parla solo di Parenzo, quindi eccolo là. Però devo dire la verità. Ma perché c'è Parenzo lì? Sì, ecco. Sì. Ma scusi Parenzo, lei che c'ha la prima serata su Rai 3, ancora sta con Cruciani. Ma lasci stare lì questa radio qui, ma lei è una star della prima serata. Come è andata la prima serata? Due, ma ci siamo difesi, mi vuole cancellare il programma, no? Io dai, vede subito l'accusa che sta recensore. Ma come? Io alla sera a linea diretta, sì. Dici, ma come, li affidano la prima serata a lei? Insomma, com'è andata? Perché secondo me c'è qualche suo collega che sotto sfotte, perché è invidioso che lei ha avuto la prima serata e lui no. Poi casomai dice, beh, gli ascolti così esordiente eccetera in prima serata. Ma com'è la Zanzara in questi mesi? Ma Gaspar, ci siamo difesi, Gasparri, abbiamo fatto un milioncino. Com'è? Ha avuto un milione di euro, questi sono i pagamenti della Rai, ha avuto un milioncino. No, di ascolti, ma che milione di euro? Poi sta un milione di euro per quelli, li prende Gubitosi, no? Vabbè, pure Minzolini, no, che ha fatto sta protesta. Non le Gasparri, permetto di non parlare che... male di Gubitosi, non glielo permetto. Guarda. Ma come metto no? Il mio corpo a difesa di Gubitosi. Dai, su, Parenzo, sei diventato veramente una cosa Gubitosi. Vergognosa. Ah, proprio aziendalista lecchino. Sì, insomma, aziendalista lecchino. No, aziendalista sicuro. Comunque, lei, Gasparri, che è un grande pubblica. Ascoltatore della Zanzara, come sente Parenzo in queste ma settimane? Parenzo, io ero un ragazzo bravo, penso questo fatto che ha avuto sta prima serata, che non gli va bene, perché sia un po' in crisi, però cioè, lei lo consoli, Cruciani, perché... Ma non mi va bene, lo dice lei, scusi. Beh sì, non è andata benissimo, diciamo, comunque vabbè. No, non lo so, guardi Parenzo, io la difendo perché insomma è una specie protetta, resta lì un po', ma sono i suoi colleghi che sono invidiosi, mi capisci a me, come diceva quello. No, lei fece una battuta stupenda, lei a linea notte fece una battuta stupenda che io manderò penso già domani sera o nell'ultima puntata. Lei disse: la Rai è una grande azienda, sopravviverà allo sbarco di Parenzo. Beh, effettivamente. Ma non c'è dubbio, la Rai ha 60 anni di storia, anzi se ci mettiamo lei a radiofonica, siamo tra un po' saremo al secolo di storia, e quindi sono stati, hanno resistito alla legge Gasparri, hanno resistito alle gemelle Chesler, hanno resistito a Gubitosi, vuole che non resista a Parenzo, la Rai sta a spalle robuste. È più forte di Parenzo, diciamo la verità. Su questo è dubbio. Certo. Senta, io però voglio sapere una cosa da Gasparri, se si rifà Forza Italia, perché ieri il segretario del suo partito Gasparri ha detto che è un processo irreversibile. Ora io dico, mi dica, io lo so quello che pensa lei, perché un po' credo di conoscerla. Allora mi dica, lei sarà mani e piedi dentro Forza Italia? Guardi, io la risposta non può essere un sì o un no. Comunque io, come no? No, perché allora io sono contrario al recupero di nomi del passato. Dunque, contrario a Forza Italia. A Berlusconi, sono contrario in generale. Sono contrario a quelli di destra che dicono di facciamo alleanza nazionale. Cioè, non ritengo utile riproporre nomi già sperimentati. E però, dunque, mettiamo un punto. No, è contrario al ritorno cosa, a Forza Italia. Se mi fa parlare, scusi, perché se deve fare. Allora, io più volte in questi anni, Berlusconi c'ha questa idea in testa e lo farà, perché poi quando Berlusconi si mette una cosa in testa la fa, se no non sarebbe Berlusconi. Certo. Sono anni che parliamo di questa cosa e varie volte devo dire che anche tenendo conto del pensiero mio e di altre persone ha, come dire, accantonato questo progetto, e quindi devo dare atto a Berlusconi di aver dato ascolto. Dopodiché adesso lo ha riproposto, lo attuerà. E allora io ritengo che sarebbe stato meglio mettere nomi nuovi, innovare. Io l'ho detto più volte, anche 15 giorni fa, avanti a 20 persone, guardi, se non ho tutti. Cioè innovare più che cambiare nomi, dice lei? Uno può anche mettere un nome nuovo, no? Però se uno innova, la prima persona che aspa, lei è da tanti anni, cioè anche lei dovrebbe... No, il nome sto dicendo. Ah, cioè, se uno vuole cambiare nome, ho capito, sì. Io dico, vuoi cambiare perché non è il suo popolo di libertà, può essere... Lui vede il popolo di libertà più come la denominazione della coalizione, in cui Forza Italia, sì. La Lega, una qualche area cattolica. Vabbè, noi gli piace. Gruppi, gruppetti di destra. Lui vuole tornare a questa idea di Forza Italia. Ha accantonato più volte il progetto, ultimamente ha detto che l'avrebbe realizzato. Ma lei entra in Forza Italia o no? Ne farà parte adesso o no? Adesso ci arrivo. 10 giorni fa in una cena abbiamo parlato di questa cosa. Gli ho detto la mia opinione contraria, lui ha spiegato con molta calma e pazienza che secondo lui invece può suscitare emozioni, è gradito nei test, e poi secondo me, come tutti quelli che vivono un momento difficile di scontro, ritiene che il ritorno a un'impostazione originaria possa risolvere. Io non credo a questa cosa personalmente, però non mi scandalizza neanche, arriva la sua risposta. Io sogno un'Italia in cui ci siano un partito conservatore di centrodestra e un partito progressista. L'America, sogno l'America, repubblicani e democratici, per cui non andrò a riformare partiti, partitini. Io pure potevo fare un partito con la Russia, non ce va. Con la Russia non ce va. No, ma non vado a fare. Ma io potevo fare il partito di Gasparri. Come beh, non ho fatto il partito di Smetti. No, scusi, no, mi faccia dire. Sorace, il nemico Sorace ha fatto un partito, ha preso lo 0,5%. Quindi voglio dire, un partito di quelle dimensioni, no? Uno lo può anche fare. Perciò sto dicendo il partito di Gasparri, non per fare il partito come quello di Berlusconi. Guarda, in Italia i radicali che sono la presenza storica, quanto hanno preso all'ultima elezione? 0,6. Bravo. Pannella si incazzò pure, si incazzò perché io l'ho ricordato. Una roba del genere la possono fare un sacco di persone. Francesco Solace ha legittimamente fatto un partito. Però a lei non va di fare un partito ritengo sbagliato politicamente fare partiti. Io sogno un'Italia non solo bipolare, ma bipartiti. Vabbè, d'accordo. Quindi allora non sono per fare partitini. Ritengo che è meglio mettere nomi nuovi, ma il problema non sono i nomi. Però mi adeguo a Berlusconi. Mi adeguo all'idea di fare un'Italia bipolare, bipartitica, e non vado a sfasciare questo progetto. Ritengo questa una, quale posso dire, se si farà, e si farà credo, un errore, su un cammino, una sorta di pit stop come Parenza la Rai, Parenza la Rai è un disastro, è un'innovazione, quella è un'innovazione. Ma quale innovazione, è un disastro Parenza, chissà chi l'ha raccomandato, stiamo indagando. Secondo me è come quella di uno per anche allora, uno per andare a replica a Gasparri diventa ma dai, che sta scherzando su, ma no, per essere usata contro di me non posso replicare a basso Parenza. Allora, uno per andare da Roma a Milano, no, si può andare adesso con la Freccia Rossa, col treno di Montezemolo, con l'aereo. È un modo diverso, la denominazione Forza Italia, di andare a questo traguardo. Io sono però per il traguardo di arrivare a una meta bipolare. Vabbè, questo l'abbiamo capito, però la cosa finale qual è? Che lei alla fine entrerà in Forza Italia. Questo è il punto. Io nella discussione ho detto che secondo me tornare ai nomi del passato non porta un vantaggio. La sua linea non è passata, dunque lei prenderà la tessera di Forza Italia. Continuerò a discutere di questa cosa, dopodiché sono per un'Italia bipolare, ma penso che ci saranno riunioni in cui discuteremo ancora. Va bene, di d'accordo, cosa, però lei dice che passerà il suo però il siccome lei stesso, scusi, senatore Gasparri, non è che io adesso ho ascoltato bene le sue parole, perché non è che non ascolto. Ma le ho fatto una considerazione di natura politica, non è una cosa che si risolve mettendo la crocetta. No, ma però siccome lei stesso ha detto che alla fine Berlusconi questa cosa qui la farà, allora lei mi deve conseguentemente dire, siccome voglio un'Italia, non voglio andare a fare i partiti piccoli, eccetera, eccetera. Io non sono per fare partiti piccoli. Alla partiti fine entro in Forza Italia, entrerò in Forza Italia. Ci sarà una riunione, dal mio punto di vista, e poi non sono contrario a progetti ampi e grandi, perché già qui è difficile riuscire. Vabbè, alla fine entra a Forza Italia. Ma perché non si può dire una cosa del genere? Se Berlusconi deciderà di fare Forza Italia, cosa ha detto? No, dico che sta rosicando, ma scusami Gasparri, dalla del movimento sociale, Onda N. Fonda N, ingoia il PDL e adesso gli dicono no, abbiamo scritto. No, veramente è quello che ha ingoiato meno il PDL, non hai capito niente. Io il PDL lo volevo, io volevo un partito legato al Partito Popolare Europeo di centrodestra, vasto, grande e unitario. Vabbè. È nato il PDL, che è messo in crisi perché Fini e altri, è successo un casino, per scusare, allora io mi rifaccio Forza Italia, che sta dentro una coalizione che lui vuole chiamare Popolo della Libertà. Io a questo punto la coalizione resta quella che era, se il veicolo principale è questo, in un momento in cui si lei va nel veicolo, lei va nel veicolo principale? Io sto dove possono incidere di più le mie idee. Vabbè, ho io capito, che sono però, cattolico e difendo la famiglia, io che sono una persona che se le politiche di sicurezza dice alcune cose. Ma qui ormai, che, ormai non mi vado a mettere, non mi vado a mettere in una teca. Guarda, in questi giorni ci sono stati dei convegni, c'è stato un bel convegno della Fondazione Almirante sul presidenzialismo. No, per carità. Ho elogiato, no, io ho elogiato Giorgio Almirante perché sono orgoglioso di essere stato un figlio politico di Almirante. Ho detto che sul presidenzialismo siamo tutti impegnati, anzi la invito martedì alle ore 17 alla sala del Senato di Piazza della Minerva, convegno della mia fondazione Italia Protagonista sul presidenzialismo, con Gaspari, poi Fitto, Schifani, Quagliariello, la Finocchiaro, Violante. Pure. Dopodiché, detto che sono curioso di essere stato allievo di Almirante. No, ma lei entra dentro Forza Italia o no? Vai, Almirante avrebbe rifatto i partiti del passato, e quindi io voglio stare nel veicolo principale della coalizione. No, vuole stare benissimo, chiarissimo, chiarissimo. Senta, ma l'esercito di Silvio lo conosce lei, l'esercito di Silvio? No, io sono per i carabinieri, non so. No, perché c'è sempre il signor Volpe Pasi, lo ricorda il signor Volpe Pasi? Sì, ci sono, ma non mi faccia litigare, che poi quello fa quello. Cioè, non mi interessa, io mi occupo di progetti importanti, ognuno fa qui, io sono per la libertà. Ognuno vuole fare delle cose, uno fa l'esercito, fa l'esercito. Ho capito, però insomma, capisce bene che l'esercito di Silvio. Però se lei si diverte, lei poi crea queste cose, lei dice una cosa, uno dice un'altra, poi va sull'agenzia. Ma che mi diverto, un attimo che c'è la pubblicità, poi torniamo con Marina Berlusconi. Marina Berlusconi dopo, Marina Berlusconi. La zanzara. Zanzare. Dietro montagna in colina. Beh, caro Gaspari, ha sentito Grillo che ha detto che Napolitano ha fatto male a invitare Berlusconi per un colloquio al Quirinale. Perché a quel punto era meglio invitare Miccoli. Ha invitato l'ho Al Capo. Grillo. Ah vabbè, Miccoli calciatore? Sì, perché è come invitare Miccoli, cioè Berlusconi come Al Capone. Berlusconi è uno che rappresenta milioni di italiani, ha fatto bene a Napolitano a incontrarlo. E vabbè, questo è scontato. Il fatto stesso dell'incontro è stato un messaggio positivo, perché dopo giudizi così... No, ma Grillo volevo sapere, Grillo. Ma Grillo pure un altro. Urla, strepita, mi pare che abbia raccolto molti voti per ragioni comprensibili, indignazione per gli scandali, rabbia della gente, perché li stia utilizzando molto male, con tutto un continuo grande fratello quotidiano, riunioni, espulsioni, espulsioni, riunioni. Quindi non mi pare che come veicolo della protesta alla fine Grillo riuscirà a dare un senso a quei voti che ha preso. Senta, però questa Forza, Italia 2.0 sembra essere guidata da persone come la Santanchè, per esempio, no? Questa Forza Italia 2.0 come sarà guidata da Berlusconi, immagino, insomma, poi da tanti altri, c'è un gruppo dirigente, ci sono persone che hanno varie esperienze. Daniela è una che è entusiasta di Forza Italia. Anche se lei, come è stato detto, non c'era, viene da Forza Italia, lei la sua un'esperienza politica l'ha fatta. E Marina Berlusconi che ne pensa? Marina Berlusconi? Non la conosco, se dirige le aziende nel suo gruppo da molti anni con i risultati che è riuscita ad avere, deve essere una persona capace. Cioè, in politica sarebbe capace. Io ho visto un paio di volte il fratello, lei non ho mai avuto occasione. Ma in politica sarebbe capace, secondo lei? Ma guardi, tante persone che hanno avuto successo nel campo dell'impresa e ogni altri settori sono stati capaci. Ma è fantapolitica? È fantapolitica? Ha sempre smentito. Quello sa, però non lo so se un domani volesse avere un impegno meno. Non ho pregiudizi particolari. Io credo che il mondo. Ma un altro Berlusconi? Capaci. Un altro Berlusconi sarebbe una cosa positiva, secondo lei? Un'altra persona che si chiama Berlusconi? Io credo che le persone si debbano formare nell'esperienza politica, eccetera, eccetera. Però viviamo in un mondo dove i parametri sono saltati. Appunto. Tutti. Se lei l'avessero detto 5 anni fa, 10 anni fa, che uno come Grillo prendeva il 25% dei voti, o che a Messina uno che è andato al di là di Grillo sarebbe entrato scalzo nel comune, diventando sindaco, lei non ci avrebbe creduto. Cioè, questo, o anche Berlusconi, cioè 30 anni fa, era bambino. Ma ha paura del ritorno di Ingroia? Lei? Io credo. Ha paura del ritorno in politica di Ingroia? lei non vede la televisione. Allora, l'altra mattina, in un orario diverso da quello assegnato a Parenzo, alle 8 di mattina, orari minori, non sono una star della televisione come Parenzo, che anche se qualcuno lo critica nella sua radio sugli ascolti, però io no, sono stato ad Agorà la mattina alle 8 con Ingroia. E Ingroia mi ha detto: ci venga alla mia manifestazione, c'era il giorno dopo, sabato scorso, di costituzione dell'ennesimo partito. Ingroia è l'unico che ha fatto già due partiti senza prendere un voto, a proposito di gente che scende in politica. E quindi E allora mi ha invitato, ma così per motivi di cortesia, io ho risposto: guarda, io non vengo per non essere scortese, perché se vengo dico quello che penso e succede un casino, poi deve intervenire la polizia. Per perché? Addirittura? Perché ho una... Ma insomma, gli ho ricordato la storia di San Cimino Iuno, tutte le gente che lei conosce meglio di me, sì. Il tritolo in casa di San Cimino. Dopodiché però ci siamo ripromessi di fare un faccia a faccia in autunno, quindi organizzeremo un faccia a faccia in droga in autunno. Ospitalo tu, Parenzo, ospitalo tu. Ma magari. Ma dove? In che cosa? No, un faccia in un convegno, in un albergo, una sala, una cosa per il Ma lo ospito io. Ma dove lo ospiti? Dove? Ho deciso di fare un faccia a faccia. Ti do l'annuncio, dove lo ospito? Allora, vabbè, noi faremo un faccia a faccia, se qualcuno ci vuole invitare. Dammi l'annuncio, pare. Quindi, sono pronto a ospitare in confronto Gasparri in Groia. Ma dove? Su che rete? Non so dove sarà possibile, sono pronto io. Sotto andremo al bar sotto casa di Prezzo. Comunque io in Groia faremo, lui mi ha detto, abbiamo parlato di questa cosa. Io, siccome ritengo che su molte cose lui abbia commesso degli errori, non la questione di San Cimino. Vabbè, siete diventati amici, ho capito. Va, avete ma quella amici, bisogna confrontarsi, perché io sono convinto. Ma ha sentito che ha detto Miccoli? Ha sentito che ha detto Miccoli? Ho letto sui giornali delle intercettazioni, molto spiacevoli, molto brutte, cose non condivisibili. Falcone Fango, parla... in realtà non è l'unico a pensarla, cioè c'erano molti che odiavano Falcone. Ma guardi, allora, se vogliamo fare i seri, non mischiamo Miccoli con la storia. Nella storia italiana, io le ricordo queste vicende, le ricordo... Cioè a chi si può accomunare uno che dice Falcone Fango? No, diciamo che Falcone ebbe l'ostracismo di correnti del CSM che ne impedirono la giusta qualifica professionale in incarichi, poi ebbe un riconoscimento perché fu chiamato al ministero a Roma quando c'era Martelli, e molti suoi colleghi togati, non ricordo francamente, cioè molti magistrati alla fine la pensano come Miccoli, non so che espressione hanno usato. Miccoli ha usato espressioni di insulto, inaccettabili, intolleranti. Molti colleghi di Falcone, molti politici lo hanno lodato da morto e lo hanno ostracizzato da vivo, senza fargli assumere gli incarichi che avrebbe meritato a Palermo, e criticandolo perché al ministero collaborava col governo. Ma lui preparò invece la costituzione della Procura Nazionale Antimafia, e la mafia lo sterminò con la scorta della sua compagna, perché era stato un eroe con Borsellino della vera, seria lotta. Senta Gasparri, ma perché molti nel suo partito vogliono, alcune donne dice che ci vogliono una Renza, ci vuole una... lo dice la Biancofiore, per esempio, la sua amica Biancofiore dice che ci vuole una Renza, cioè una persona nuova, donna, stupidaggine. Renza è Lucio. Allora la verità è che la sinistra, il PD, non ha vinto perché non avevamo Berlusconi, questa è la verità. Non avevamo una Renza. Poi Renzi è un po' un figlio del berlusconismo. No, ma lo dicono quelli del suo partito, il partito suo, allora, che ci vuole una Renza. Noi abbiamo Berlusconi. E poi il leader che ci sarà dopo nel futuro della moderata nascerà sul campo, è utile programmarlo, dirlo, potrà essere un politico, potrà essere un non politico, un uomo, una donna, francamente non lo so chi sarà. Però più che ma chi dice che ci vuole una Renza non è una stupidaggine, no. Non è uno stupido chi dice che ci vuole una Renza. Sì, però una Renza, io non ho nessuna pregiudiziale contro leadership femminili che nascano sul campo. Quando ci sarà una leadership femminile nata sul campo, la immergeremo, la seguiremo. Io non ho una pregiudiziale da questo. Comunque lo sa che ha detto Lerner su Berlusconi, che è un puttaniere incompatibile con lo Stato, signor Lerner. Ha detto Lerner. È così. Ma guardi, è da tempo che mi sono, come dire, disinteressato dai giudizi che ha Lerner. Sì, da tempo, no, da quando era la RAI, diciamo, no? Da tempo, lo conosco da tanti anni, mi è capitato di confrontarmi con lui, di partecipare alle sue trasmissioni, ma diciamo che lui esprime in modo molto fazioso le sue opinioni, è libero di farlo. Mi pare che abbia avuto un po' di insuccesso di audience ultimamente, e quindi Parenzo rischia di seguire la parabola di Lerner prematuramente. Però ma non è che me la stai girando, sia stato sconfitto nella guerra dell'Odio. Senta, però nei giorni scorsi ricollocato in tarda serata, mi nei pare. Giorni no, scorsi è stato ricollocato. No, ancora no, non si sa e bene. Venerdì sera tardi, faceva il lunedì sera sì, presto, sì, l'hanno sì. messo venerdì sera tardi. Lei che è un uomo di media, di comunicazione, non mi intendo di questi settori, no. Dovrebbe dare una certa importanza a questa cosa. Senta Gasparri, però lei è stato ricordato, nei giorni scorsi, no, è stato ricordato, in questi giorni, al centro di polemiche per un'affermazione che ha fatto da Dinolfi a Radio Yes, quando ha detto che se Berlusconi sarà interdetto ci dovrebbero essere delle dimissioni in massa dei deputati, interdizione sto parlando. Io ho detto una... Quando dovesse arrivare un provvedimento definitivo del genere, di interdizione, no, io mi auguro che non venga mai questo momento. Ma lei pensa che i parlamentari, i dirigenti del centrodestra, il PDL o di come si chiamerà in quel momento il PDL, vanno la mattina dopo in Parlamento a discutere degli emendamenti? Vabbè, ma è una cosa prevista dalla legge, è una cosa prevista dalla legge, Gaspare, l'interdizione dei pubblici uffici, non è che è una cosa che cioè... ma anche le dimissioni dal Parlamento sono previste dalle norme, mica sono un atto illegale. No, beh, d'accordo, cioè, è una però subentrano altri, dopo voi subentrano altri. Io ritengo che si dovrebbe fare un atto, come dire, di pacifica contestazione democratica, e anche quelli che si dimettono dovrebbero uniformarsi a questo. Cioè, senso. Dimissioni, guardi, a catena finché non finiscono i deputati. Ma guardi, lei no, lei, no, non è quello. Ma lei, io allora, primo, mi auguro che non si arrivi mai. Vabbè, quello alla, è chiaro. Ci sono due rischi: la ineleggibilità con la interpretazione. Vabbè, quello mi pare difficile. Dal passato della legge del 57. Oppure appunto sentenze definitive, e quella dell'altro giorno che è una mostruosità, l'interpretazione, un ergastolo democratico veramente incredibile. Se si arrivasse a un evento del genere, la mia proposta nel PDL è questa: di dimettersi. Non ha avuto molto seguito, alcuni hanno detto no, io non mi dimetto, ma che c'entra la dimissione? Io vabbè, allora scusa, ribadisco, ma qualora si arrivasse a un evento definitivo, lei si dimetterebbe? Lei si dimetterebbe? No, dico che tutti lo dovremmo fare, che si dimettano 1-10, non serve a niente. Noi dovremmo ottenere le elezioni. Ma poi subentrano, subentrano allora, gli altri, ma, gli altri poi si devono dimettere pure loro, è un casino. Per ottenere le elezioni, Cruciani, io credo che se si dimettessero i 200 parlamentari del PDL, che compresi ministri, persone rappresentative, però le dimissioni vanno accettate, è un casino. Io credo che però questo avrebbe un valore nel dibattito democratico da accelerare il ricorso alle elezioni. Se poi si fa finta di niente, subentrano i primi, secondi, terzi e si va avanti lo stesso, saremmo in una follia, in una schizofrenia democratica. Sento un'ultima cosa, ma perché Brunetta è... perché Brunetta si è messo a fare, a spulciare gli ospiti dell'annunziata di fa... ma no, ma che ha scoperto l'acqua calda, che invitano solo quelli di sinistra o comunque soprattutto lui ha fatto un discorso alla Brunetta, da professore scientifico, preso i dati delle presenze della trasmissione di Lucia Annunziata, ha preso i dati delle presenze di Fazio e contesta in termini di pluralismo queste condizioni. Ma si sa io che è così. L'Annunziata sia, ma non è il problema, io sia militante di parte, glielo dico sempre scherzando, quando l'ho vista l'ultima volta alla elezione del Presidente della Repubblica alla Camera, stava a Montecitorio, nel Transatlantico, io l'ho avvicinata, qua ci conosciamo da molto tempo, gli ho detto a Lucia, a te te darebbero, insomma, ma veramente... denunciare per la sua falsità, lei scherzando, ridendo, poi giorni fa stava appunto, ma scopriamo l'acqua calda, questo dico, scopriamo l'acqua calda. Ho capito, però ci sono regole di pluralismo. Il direttore generale della RAI, glielo dico seriamente, Gubitosi, non se la può cavare con le ridicole non risposte che ha dato. Gubitosi deve rispondere sulle violazioni al pluralismo fatte da Lucia Annunziata. E non creda che Brunetta sia isolato, e Gubitosi non se la cava con la supponenza. Durante la trasmissione dell'Annunziata sono state pronunciate critiche feroci alla legge Gasparri, ma lei non ha diritto di replica. È pazienza. Gubitosi, allora Gubitosi si sveglia, sono i responsabili di concorso interno, scherzando, in violazione delle regole del pluralismo. L'Annunziata, una militante della sinistra che con grande calore e spesso con autolesionismo per la sinistra conduce la sua trasmissione. Uno dei motivi la militante è una persona che ha le sue idee, alle persone che ha le sue idee conduce una trasmissione, punto, basta. Sa perché la sinistra non vince le perché elezioni? Per colpa dell'Annunziata, perché oltre a Bersani ci sono anche persone come Lucia Annunziata, però Gubitosi, e qui mi faccio serio, o rimuove gli ostacoli al pluralismo a cui Lucia Annunziata deve, cioè deve cacciare l'Annunziata, ma deve indurla a rispettare il pluralismo, non deve, ma deve fare la scaletta, lui deve fare, deve fare la scaletta. Ma scusi, secondo lei nel servizio pubblico si possono invitare 20 della sinistra e 3 del centrodestra? Lei è d'accordo? Mazzola, allora a questo punto lei non fa così, mi pare, e potrebbe non essere tenuto a vincolo perché non lavora. Ma no, ma è una... Ma allora io sono più indignato con Gubitosi che non con l'Annunziata, perché guardi che per un lungo periodo è di una idea sbagliata che danneggia con la sua faziosità. Vabbè, perché Lucia Annunziata la dobbiamo ringraziare perché è talmente faziosa che aiuta noi. Ma dopodiché Gubitosi invece... Allora lasciatela lì, lasciatela fare quello che vuole. Gubitosi fa un peccato veniale, consentendo a Valenza di condurre la prima serata, perché danneggia solo la Rai con i risultati di ascolto. Metto le risate di sottofondo, sennò Valenza crede che lo faccio diventare marcio. Invece Cupido si sbaglia nel non invitare la Annunziata a rispettare il pluralismo. Dovrebbe fare la scaletta dell'Annunziata. Vabbè, grazie. No, gli deve dire che deve avere più Gaspari e meno, più Gaspari e meno PD. Io non me ne frega niente, può anche invitare a nome del centrodestra, ad esempio, Parenzo, che prima o poi si riconvertirà in militanza. Le posso solo ricordare, caro Gasparri, caro che Parenzo, fu proprio Berlusconi ad alzarsi durante un'intervista non accetta il confronto. L'intervista non è un pranzo di gala, allora, e Gasparri arriva l'Annunziata, mi racconta. Basta, ragazzi, basta con l'Annunziata. La propagandista della sinistra. Ma quale propagandista? L'intervista non è un pranzo di gala. Dopo aver collaborato con tante aziende private, è andata e tornata alla Rai a fare un sassista. Ma che c'entra? È una cattiva propagandista. Aiuta il centrodestra. E allora lasciatela fare, no? Allora lasciatela fare. Infatti, tutto sommato. Grazie. Devo finire, ho capito, Cupidosi. Grazie, pubblicità. Grazie, pubblicità. La Zanzara. La zanzarita tormenta la mia noche, pasa en blanco. Mañana yo soy estanco como una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho. Giovanni da Campobasso, buonasera. Buonasera, sono Giovanni da Campobasso e sono un camionista. Sì. E voglio salutare a tutti i miei colleghi, in particolare Angelo da Bari. Sì, con vabbè, il vostro permesso. Se dipende, Giovanni, permesso per che cosa, scusi? Glielo sto dicendo. Se fate arrivare il numero di mio da Angelo, io da Campobasso a Termolo lo voglio incrociare per conoscerlo. No, però scusi, tutto Giovanni, qua, adesso non è che possiamo fare... Non si può. Radio appuntamenti tra i camionisti, vabbè, abbia pazienza, Giovanni. Okay, no, vabbè, non è che non si può. Si può pure, bastava che mi scrivesse una mail o qualcosa del genere. Comunque, comunque, Giovanni, lei vuole incontrare chi vuole incontrare? Angelo da Bari. Angelo da Bari, caro Angelo da Bari, se sei in ascolto. Camionista. Sì, camionista, suo collega. Che volete incontrarvi a fare? Per andare da Susi insieme? Da signora Susi? No, possiamo incrociare anche là, non c'è un problema. Ma lei è mai stato dalla signora Susi? Ci passo, mi sono fermato, ci conosciamo, però... Ma com'è? Diciamo, ma com'è questa signora Susi? È una bella donna. Diciamo. Donna, insomma, trans. Trans, sì. Trans. Ma lei pure ha frequentato? Sì. No, la Mara no. Come, scusi? La Mara no. Come Mara? Perché si chiama... Non è il mio tipo. Come si chiama? Mara? Mara, mi sembra. Mara. Sì. Cambia nome a seconda del cliente. No, voglio ricordare al signor Parenzo che se non la smette di maledire i camionisti, qualche sera si potrebbe ritrovare due o tre camionisti che lui non conosce e gli fanno un'operazione senza dobbia e un'entrata a secco. No, ma scusi, però adesso spieghi bene questa entrata a secco. Al di là di questa operazione... No. Scusi, Giovanni, ripetiamo un po', l'operazione... Sì, un attimo solo. Se il signor Parenzo non la smette di maledire i camionisti, ma non l'ha mai maledetti? I camionisti, signor Parenzo, quando io circa 40 anni fa venivo a Bassare del Grappa, a Rese Pio X, a portarti la farina per fare la pasta lì a Pastazzara, tu ancora non nascevi nemmeno. Quindi i camionisti sono quelli che ti trasportano. Ma io non ho mai insultato i camionisti, anzi, mai. Ma come mai, signor Parenzo? Ho detto semplicemente che quel signor Angelo... L'ha insultati. Non ho mai insultato, ho detto semplicemente che quell'Angelo da Bari, che usava quel linguaggio che tutti avete nei miei confronti, ma aveva rotto i coglioni, fine. Sì, ma quello sai cos'è, signor Parenzo? Che magari lui si può spiegare e magari non trova il modo... Ma non è una questione di categoria, io non ragiono per categoria, non è che dico i camionisti, i notai... I camionisti... Gli avvocati, gli architetti, non è che ragiono per categorie, che me ne frega, quando, ragiono su quello che dicono le persone, se uno dice una strozzata... È come quando tu dici a signor Cruciale, dici, per te i grillini sono al Parlamento, ma non è che ci vorresti stare solo tu sul Parlamento, sul pianeta Terra? Ma figuriamoci, io dico che Cruciale, che li critica, è quello che li ha mandati in Parlamento, questo dico... ma c'abbiamo anche io ho votato Grillo. Andrea da Treviso, sentiamo Andrea. Giovanni, grazie. Andrea. Se ti piace così. Buonasera. Dica. Buonasera Cruciani, buonasera Moscio Parenzo. Moscio, moscissimo, moscissimo. Moscissimo, è un po' che è moscio, che c'ha la testa alla Rai. E a proposito di Rai, ascoltarlo fa venire nascere quel senso nostalgico di un Santoro, di qualche altro. Vabbè, adesso lo so. Ma c'è il Santoro però. Vabbè, ma in secondo luogo io volevo dire... Un attimo, Andrea, un attimo. Sì. Pronto? Professore? Chi è? Eccoci, Cruciani. Uè, ciao, dimmi. Come stai? Grazie. Bene, bene. Saluta, bene. David, omaggia al professore. Omaggio al professore. Omaggio l'ho professore. Sentito anche l'altro giorno per altri fatti. Allora, caro professore, due cose. La prima è questa. La difesa di Berlusconi, com'è stata, professor Taormina? Com'è stata la difesa di Berlusconi? È stata... Pessima. Una difesa... No, pessima non è stata una difesa pessima, è stata una difesa improduttiva. Ecco, vabbè, quello mi sembra evidente. I risultati, sì, sì. Beh, non solo questa, anche... diciamo con riferimento agli altri processi ci sono stati, cioè come sono come avvocati i due Chip e Chop, signori Ghedini e Longo? Sono degli ottimi avvocati che in questi processi probabilmente hanno trovato una situazione che non sono stati in grado di superare. Vabbè, ma come mi è diplomatico lei, professor Taormina? Che vuol fare, sai, io devo stare attento perché questi sono avvocati potenti. E che possono fare? Ma sai, possono fare querele, citazioni civili, perché magari i processi di Berlusconi vanno in questa direzione, poi quando invece la controparte diventa una persona come me, probabilmente i giudici danno pure ragione. Quindi scusi, però insomma. Principe, io voglio dire una cosa. Principe, avvocato, professore Carlo Taormina. Ah, Principe per Filettino. Dice. Sì, se ancora esiste il Principato, che secondo me non esiste più. Esiste il Principato di Filettino, lo stiamo rilanciando proprio in questi... Ma che rilanciare? Sabato pomeriggio abbiamo una bella riunione riorganizzazione del Principato. Addirittura. È l'unico baluardo contro questo Stato... ma non andate da nessuna parte e vabbè, lei faccia le sue osservazioni, è giusto che, che faccia delle critiche, poi dal punto di vista dei risultati saprete giudicare anche voi. Però io devo dire una cosa, professore, ma Ghedini e Longo sono avvocati di rango, di vaglia, oppure oltre ai processi a Berlusconi non li conosce nessuno? Beh, guardi, io dico la verità, prima che comparissero sulla scena berlusconiana, dalla quale hanno cacciato tanti, compreso o più che cacciato, hanno creato le condizioni, si sono create le condizioni perché io venissi, come del resto l'amico Pecorella, venissimo in qualche modo emarginati, non solo dal punto di vista professionale, ma soprattutto dal punto di vista della presenza politica. Francamente, io ho frequentato abbastanza Padova, parecchio Padova, dove non li conosceva nessuno. Questi colleghi hanno lo studio, io non li conoscevo. Ecco, scusi un attimo, però si sono arricchiti molto con Berlusconi, secondo lei? Sì. Ma guardi, io questo non lo so, perché sa, Berlusconi è un personaggio strano. Cioè? Ma sa, insomma... C'ha il braccino corto, no? Li ha resi... No, il braccino corto non ce l'ha, abbiamo visto che con le oggettive il braccino corto lo aveva. No, per carità, vengo subito alla sua osservazione. Però c'è questo, che hanno avuto tante cose che senza Berlusconi non avrebbero mai potuto avere. Pensare di fare i deputati, i parlamentari, sia l'uno che l'altro, ma sa, sono dei privilegi. Cioè, sono soldi, dice lei, sono soldi. Ma sa, sono soldi e sono anche nome, quindi sono anche... trainano anche altri affari professionali, eccetera, quindi voglio dire... lei dice non è tanto non sono tanto le parcelle, no? Non lo so, loro dicono così, io vorrei vedere Berlusconi che paga gli avvocati, ecco, questo lo vorrei vedere, sì. Cioè in che senso? No, insomma, ecco, non lo so, può darci... Cioè lo fa gratis, lo fanno gratis, secondo lei? Ma scusi, ma secondo lei Berlusconi li mette in Parlamento... per gusto personale lo fa, perché cioè non li paga, questo è interessante, secondo lei non li paga? Come no, potrebbe non pagarli, non lo so, potrebbero avere maturato un rapporto di ringraziamento, di gratitudine, eccetera, per cui fanno tutti questi processi gratis e tamore dei. D'altra parte, processi che si sono conclusi il 90% tra prescrizioni e quant'altro, per cui non credo. Non è che c'è stato un grande, diciamo così, trionfo, dice. Beh, insomma, oltre che trionfo, anche svolgimento di attività professionali particolarmente approfondite. Senta, professore, ma diciamo, ma non ho capito, lei come lei avrebbe mai tirato fuori la questione della moglie della nipote di Mubarak? Mi dica la verità, professor Tormina. Ma non so se l'abbiamo tirata fuori loro la questione di Mubarak. Qualcuno l'ha tirata fuori. Qualcuno l'ha tirata. L'avvocato Pecorella ha detto che è una roba da Totò. Però il problema, sì, ma il problema, l'avvocato Pecorella ne ha motivo, perché sicuramente ne sa più di me, in quel periodo era sicuramente un pochino più presente di me nello scenario politico, giudiziario di Cioè chiamare tutti quei testimoni, per esempio, no? È stato un errore, tutti quei testimoni a favore. Guardi, io non voglio criticare i colleghi, però insomma, francamente, se poi i giudici ti dicono che 30 persone possono aver dichiarato il falso, potrebbe anche dirsi il contrario, che siccome 30 persone dicono la stessa cosa, questo significa che dicono la verità. Però se il risultato con il quale oggi ci confrontiamo è che sono 30 testimoni falsi, ecco lì per esempio io condivido la valutazione che fa Pecorella quando dice forse ci sarebbe stata la necessità di maggiore cautela. Io mi ricordo che sui giornali si diceva che erano convocate queste persone ad Arcore, eccetera, insomma, quindi ecco, quelle magari sono purtroppo... Vabbè, no, a lei critica ma non troppo, sta attento. Guardi, non è che critico non troppo, voglio dire quello che tecnicamente posso dire, perché la critica nei confronti del collega diciamo costituisce anche una fonte di possibili responsabilità di carattere deontologico, e francamente non le va di passare i guai. Dopo diciamo. Aver passato quello che ho passato, credo che sia proprio opportuno non mettersi nei guai. Comunque certamente io avrei fatto questi processi diciamo, in modo diverso. In modo diverso, insomma. Ma giusto affidarsi a Coppi? Ci sono, ma guardi, secondo me non cambia un cazzo, non cambia un cazzo, sì, non cambia un cazzo nell'acqua, perché qui non è problema. Parliamoci chiaro, in questo processo Berlusconi, parlo di Rubbi, in questo processo, sia per quello che riguarda questa concussione che si sono inventati, voglio sapere chi è in grado di dire che c'è la prova della minaccia fatta per telefono al funzionario pubblico o la violenza fatta allo stesso funzionario. Nessuno può dirlo e nessuno l'ha mai detto, quindi non avendo la prova dell'induzione evidentemente sono passati su questo obbrobrio che francamente sta nel capo e nel coda dal punto di vista tecnico-giuridico. Per quello che riguarda la questione di Rubbi e dello sfruttamento del rapporto diciamo con una minorenne dal punto di vista della prostituzione, ripeto. Ma lei ne ha detto di tutti i colori nel passato, Dormina, ha parlato delle donne, l'oggettino. Guardi, io discuto, distingo due aspetti. Io dico, Berlusconi ha commesso gravissimi errori. Berlusconi non solo da Presidente del Consiglio ma anche come semplice politico, comunque come uomo pubblico, poteva farsi i cazzi suoi come meglio credeva, ma certamente avrebbe dovuto mantenere il dovuto riservo. Tutti quanti i politici fanno porcherie dalla mattina alla sera, ma nessuno si mette a sbandierarle dalle televisioni o dai balconi dei... Quindi in questo Berlusconi ha sbagliato. Io però distingo due aspetti. Sì, quello penale e quello comportamentale, certo. Bravo. Però scusa una cosa, c'è un'altra cosa prima di chiudere, professore. Prego. Ma hai visto che è arrivato dall'America, sì, sui matrimoni gay? Fa una cosa pazzesca. Siamo tutti... È uno schifo, un autentico schifo. Perché è uno schifo? Beh, vabbè, insomma, io per froce e lesbiche sono sempre stato di una certa opinione, per cui credo che questo sia l'America che ha sempre esportato innovazione e quant'altro, stavolta ha esportato un cumulo di immoralità una schifezza inaudita. Cioè siamo tutti froci, diventiamo tutti... Ma scusi, non ho capito. Come siamo? Una cosa è che ognuno si faccia i fatti suoi e non rompa le scatole alla gente e non modifichi la logica naturale che tutti quanti conosciamo. E quindi naturalmente in questo caso merita rispetto per come vive la sua vita, però non ci debbo rompere i coglioni col matrimonio. Certo che sono. Ma chi è che rompe i coglioni? Non ci devono rompere i coglioni con i matrimoni. Non è un diritto, non è assolutamente un diritto. Parenzo, ma tu sei bagato in testa. Io parlo del matrimonio, ma io sono bagato in testa. Ma capisco che sei bagato in testa, che bagato in testa. No, Parenzo, tanto per parlarci chiaro. Ma voglio dire, il problema è molto serio, perché si creano delle immagini per la società, si creano dei ma quale prototipi per la società? Ma dottor Parenzo, sappiamo le sue propensioni, quindi naturalmente ma ne abbiamo perfettamente conto. Ma non dica stupidaggini. Questa è la situazione, non dico stupidaggini. Se lei non si meraviglia, io mi meraviglio. Ma perché c'è tutta questa paura dei gay? No, ma che no, non ho paura. No, attenzione. Aspetta, io torniamo subito. C'è la borsa, torniamo subito. Mitico, caro Tormina. La zanzara. S'approcio e me, perché c'è da ridì. Non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio e in una mitica trasmissione, credo Parenzo, ad Antenna 3, non so se te lo ricordi. Ma come no, te l'ho segnalato io. Me lo ricordo, certo. In una mitica trasmissione ad Antenna 3, che io ti ho segnalato. Vabbè, sì, tu me l'hai segnalato tempo fa. Il professor Carlo Tormina combatteva addirittura con il professor Cacciari, con Cacciari all'epoca, una trasmissione mitica insieme al direttore di Gay, non so che cosa, sentiamo. Gay TV. Anormali, siamo ancora all'idea dell'anormalità. Allora chiedo scusa, chiedo scusa, sì, un attimo, perché Tormina ha detto delle cose gravi, vorrei una risposta di Cacciari. Ma no, che risposta? Io ho detto delle cose, carità, non siamo, delle cose siamo gravi. A premedioevo, l'omosessuale anormale. Io preferisco, siamo quando passa bene, perché gli crea problemi sul lavoro, sai com'è, ma sarà ora di piantarla con questa ipocrisia chiamata omofobia. S'approcio e me, perché c'è da ridì. Non vedo che problema c'è, mettiamola così. È normale, se per te è normale, io ti rispetto. Ma neanche più ti rispetto se per te è normale. Non c'è robe di questo genere in più. Ti rispetto. Ma neanche più la chiesa cattolica. Che sono la normalità qua. Sono diversi da lei. La normalità. Sono diversi da lei. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. La normalità. E meno male, diceva il professor Tormina, e meno male. E meno male, lo confermo. Beh, lo confermo. Ma non ho successo, perché vedo che vedo che il mondo va invece in un'altra direzione. Ma io che t'hanno fatto gli omosessuali? Non mica capito. Che t'hanno fatto gli omosessuali? Ma qualcuno ci ha parlato con te. Però per esempio i gay pride mi fanno veramente schifo. Non ho capito per quale ragione si debba fare questo esibizionismo che non ha senso. Ma pure se due froci si baciano per strada ti fanno schifo. Beh, insomma, sì, ti fanno schifo, così. Ti fanno non schifo. Capito, perché me non mi debbono far schifo? Non ho capito. Ma dai, su, dai. Ma scusate, ma la natura qual è? La natura qual è? Ma che c'entra la natura? Ma come che c'entra la natura? Io ma, dico. Ma tu sei bagato in testa, professore, sei bagato in testa. Ma chi se ne frega? E io ho detto, meglio bagato in testa che bagato in culo. Allora, voglio dire questo. Io sono di questa opinione. Ognuno fa come gli pare, si comporta come meglio crede. Però a casa sua. Noi abbiamo a casa sua e anche fuori casa sua, perché ma siamo al medioevo. Ma non me ne frega niente del medioevo, non è che cambia. Ma se qualcuno ci prova con te, che fai? Scusa. Come ci prova? Come ci prova? Manda a fanculo, che devo fare? Scusa. Non ho capito. Ti presento una persona, la conosci, la signora Elena Grimaldi, professor Tormina, la conosci? No, io Grimaldi non la conosco. Beh, dovresti conoscere. È una pornostar. È una mi ex pornostar, per carità. Parenzo, non pronunciare questa parola in vano, signora... Ma la pornostar che fa? Che fa tutto, fa. Ma tutto. Che vuol dire fa tutto? Ex fa tutto. Ex pornostar. Vabbè, ma lì poi ex. È un discorso diverso, perché qui è un discorso cinematografico, è un'altra questione, un altro problema. Io non è che vedo queste cose perché non mi interessano ma proprio. Sei fuori dal mondo, Carlo. Però quella recita in tutto. Ma sei fuori dal mondo. Ma mica... io preferisco essere fuori dal mondo che Elena, mondo. Elena, buonasera, come stai? Buonasera. Bene, molto bene, grazie. Ti disturbiamo? No, assolutamente. Allora hai sentito il professor Carlo Tormina dire un film, no, non sta facendo un film, perché non li fa più i film, professore, ecco, non li fa più. Vabbè, ma io non sono pratico, ecco, non sono nemmeno. Ma non mi dire che non hai mai visto un film porno, professor Tormina. No, non ho visto, no, qualche volta l'ho visto. Dicono tutti così. Però insomma, ecco, non accendo i canali 8 per vedere un film, ecco. E vabbè, è quello che c'entra. Vabbè. Allora, siamo arrivati in tanti altri al posto suo. Così, certo, ma certo, ma per carità, fanno quello che vogliono, a me non interessa niente. Senti, hai sentito questa acrimonia nei confronti adesso, Ma non è acrimonia, guardi, io voglio precisare bene le cose. Oddio, va bene, ho capito. Ti fanno schifo, ti fanno schifo i froci, su, professor Tormina. E beh, ma questo è pacifico. Questa c'è poco da fare. Signora, lei che dice, signora Grimaldi? Io sono per la libertà. Non è che uno sia gay, che una sia lesbica, che non, cioè non ho problemi. Sì, non credo che siano quelle le differenze. Non è che possiamo fare, sì, ma non è che possiamo costruire la società su quelli che sono dei valori che debbono essere rispettati, ma sono marginali rispetto alla natura, la libertà. Secondo me va divisa la società tra brave persone e cattive persone, indipendentemente dalla loro sessualità. Brava. Si possono comportare bene o male. Le cattive è Però quando siano gay, che siano lesbiche, cosa facciano nella loro vita. Sì, professore, un attimo solo, io volevo chiedere a Elena Grimaldi, se è favorevole Elena al matrimonio tra omosessuali, sì? Assolutamente sì. Capito? Perché negargli una cosa siamo più bella se vogliono, se stanno bene tra loro? Ma fate come cacchio volete, se si ama. L'amore è bello perché è vario. L'amore è bello perché è vario. Siamo noi per vietare delle persone di amarsi e di poter fare una famiglia. Stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di un ordine sociale, che è una cosa. Ma quale ordine sociale? Lei non crede nell'ordine sociale, io credo nell'ordine sociale come espressione dell'ordine naturale. Professor Tormino, sai che la signora Grimaldi è stata in maniera diversa. Abbiamo capito. Li rispetto, basta che rompano i coglioni a me, tutto qua. Lo sa anche. La signora Grimaldi. A me, per esempio, dover assistere durante a Roma o in qualsiasi altra parte a queste porcate dei gay pride, dove questi si vestono come si vestono, vanno girando in quel modo. Che senso ha? Mi dite che senso hanno questi esibizionismi? No, che cazzo di senso hanno? Questo vorrei capire. Me lo può spiegare a signora Grimaldi? Lei che è la gente lo nasconde. Aspetti, signora Grimaldi. Scusi, ma lei che è diciamo così un'attrice, allora mi spieghi per quale ragione ci si debba periodicamente esibire in quelle porcherie sui carri in cui siamo tutti quanti dipinti con mezze cose di fuori. Libertà, si chiama libertà. Faccia rispondere, Taormina. Ma quale libertà? Ma la libertà è mostrarsi come porci, come fanno questi al gay pride, scusi. Ognuno è libero di fare, finché non fa del male, è libero di fare quello che vuole. Perché devo subire questa violenza di andare per le vie della città e trovare i carri con questa gente che fa schifo? Faccia rispondere a Grimaldi. Prego, le chiedo scusa. Credo che ce ne siano molte di più di violenze che subiamo tutti i giorni e molto più gravi. Sì, vabbè, ma quella gente si sente libera di esprimersi in quel modo perché no? Non vedo niente di male, ma sono frasi fatte, guardi, le conosciamo bene. No, non sono frasi fatte, assolutamente. Sono frasi fatte. Io credo nella libertà di potersi esprimere come e quando. Ma Grimaldi, un attimo, Tormina. Gli eterosessuali fanno le stesse i carri con le cose per dimostrare. Ma che c'entra? Guardi, le dico una cosa, gli eterosessuali fanno cose molto molto peggio nel loro privato, nascondendo. Un attimo. No, professore, faccia parlare. Allora, gli eterosessuali fanno cose molto molto peggio, perché altrimenti in Italia non esisterebbero migliaia e migliaia e migliaia di club privé, di club di scambisti, di locali notturni. Certo. E ci vanno tutti gli eterosessuali che di giorno hanno la giacca e la cravatta e si permettono di fare i perbenisti e di giudicare gli altri, e di notte si trasformano e vanno a fare di tutto e di più. Allora, perché queste persone vanno bene e se lo fanno due gay invece no? Bravo. Io sto parlando dei gay pride. C'è la persona che va in giacca e cravatta, c'è la persona che invece va strago perché se lei se ne va da omosessuale in una discoteca e si fa i cavoli suoi con l'uomo che ha scelto, a me non me ne frega niente. Professore, ma lo sa che la signora Grimaldi è stata anche con le donne? Perché lei è stata anche con le donne, no, signora Grimaldi? Sono cavoli suoi, a me non me ne frega niente. niente. A me quello che interessa è che non ma ci perché le dà fastidio se due uomini o due donne si baciano per la società che abbiano a me fanno schifo, io posso fare, mica posso superarmi, non ho capito. Ma perché se uno si bacia per strada due uomini o due donne a lei fa schifo, professore? Io non riesco a capire. Ma lei provi a farlo, vedi un po' se si trova bene, che ne devo dire? Ma io non lo faccio perché non sono omosessuale, però se vedo due omosessuali che si baciano dico è l'amore, giusto Parenzo? Dico no, è l'amore. Io veramente non capisco come uno libertario come lui che gli frega se sotto casa sua c'è un carro con due uomini che si baciano, deve essere felice, deve dire viva l'amore, meraviglia. Ma io non posso avere che la, mia libertà, che si la mia libertà di dire che i gay pride mi fanno schifo o che due persone dello stesso sesso che si baciano. Ma pure i matrimoni ti fanno schifo a te. I matrimoni ancora peggio perché rompono l'ordine sociale che io ho in testa. Ma che ordine sociale, dai? Ma tu sei bagato in testa, sei bagato in testa, dai. Io ho bagato in testa che bagato in culo, come già vi ho detto. Almeno questa è la mia opinione. Poi se voi la pensate diversamente, ma non è possibile, da fare, dai, non troverete sicuramente un buon mercato. Ma è una roba pazzesca, dai, ma che modo è? Ciao professore, buona serata. Arrivederci, la signora Grimaldi. No, ma la signora Grimaldi è molto simpatica. Lo sai che ha scritto la signora Grimaldi di recente? Se gli piace così. No, una cosa ha scritto su Berlusconi ed è il motivo per cui l'ho chiamata, molto critica nei confronti di Berlusconi. Che pure, non ti... perché lei che c'è per la libertà, perché è critica nei confronti di aspetta, Berlusconi? Aspetta, non ho capito. E non alzare allora, la voce. Allora è ideologico la sua. Aspetta, la sua devo ritrovare il tweet che non ce l'ho qua, l'avevo preso come lotta, prima. Lotta come un leone, aspetta. Sette anni a Berlusconi, forse è la volta buona che ce lo togliamo dai maroni. Lui, i suoi amici papponi e tutte le sue donnine. Questo ha scritto. Ma perché le donnine non le può avere quante ne vuole? Ma certo, la sua vita privata può fare quello che vuole, ma quando è il governo, certo. No. Ah, la sua vita privata può fare tutto quello che vuole, liberissimo. Ma nel momento in cui ha il governo, sta dicendo esattamente. Signora, lei sta dicendo esattamente quello che dicevo prima io, e cioè ognuno nel suo privato può fare quello che vuole e nessuno lo deve censurare. C'è una piccola differenza, Berlusconi allora, era il governo e doveva fare i nostri interessi. Ha maggior ragione. Magari due persone gay che sono su un carro. Lei pensa che uno che non sta al governo può fare le porcherie come l'ha fatta Berlusconi? Mi faccia capire. Le può fare ma in se, pubblico. Ma Berlusconi se non fosse stato al governo. Mi faccia capire. Però scusi signora Grimaldi, detto da lei però con le sue donnine di Berlusconi, adesso per carità, io per me la pornostar questo mestiere è un mestiere nobilissimo. Ha rivelato la sua vera natura, è una persona seria. Se non mi lasciate parlare allora è inutile che mi abbiate chiamato. No, ma torno subito dopo il traffico dopo con Elena Grimaldi. La zanzara. Oh, eccoci qua, finalmente in solitudine con Elena Grimaldi, ex attrice porno. Oggi che fa, signora Grimaldi, lei? Oggi ho un'attività. Fa l'imprenditore, che fa? Ho un negozio di abbigliamento. Ah, fa ancora serate, locali, cose del genere? Oppure... Ogni tanto sì, ogni però tanto, principalmente ho il mio negozio. Ha ancora i suoi fan. Caro Parenzo, tu conosci la signora Grimaldi nella sua filmografia oppure no? Guarda, i titoli del film al momento, scusami, ma non li ricordo. Ricordo delle scene, come dire, hanno accompagnato la gioventù. No, ma adesso lo dico seriamente perché secondo me è un mestiere che va preso anche sul serio, non si deve ironizzare, eccetera. No, ma infatti, assolutamente, la cosa che mi stupisce è quello che ha scritto su Berlusconi, però voglio dire, una persona. Vabbè, che c'entra? Non è che se uno ha fatto torno, in teoria io ieri me la sono presa con lei, me la sono presa perché insomma, voglio dire, lei non può giudicare male le persone che con il proprio corpo ottengono dei vantaggi. No, allora forse è stato interpretato male. Allora, io mi sono permesso di giudicare quello che ha fatto Berlusconi nel momento in cui era il governo. Se poi lo vuole fare a casa sua, sono affari suoi. Quello se quando non è al governo ed è a casa sua, va benissimo. Io mi permetto di giudicare il fatto che ha messo magari il governo a lavorare persone magari non adatte, che può essere le sue donnine, lei ha detto, scusi, forse la volta buona che ce lo togliamo dai maroni. Dunque lei sicuramente è anti-berlusconiana, abbiamo accertato che lei è contro Berlusconi. Sì. E come mai? A me non piace, non condivido le sue idee politiche, non mi piace. Però nel mondo del porno, per esempio, non mi piace quello che ha lavorato e non mi sembra che mettere al governo persone come la Carfagna, la Minetti. Vabbè, ma la Carfagna che ha fatto? Mica è stata una delle donne di Berlusconi. Ma non ufficialmente, insomma, faceva, almeno, non ufficialmente. Faceva televisione fino a un anno prima, magicamente la Valletta è diventata. Io credo che al governo ci debbano andare persone, uomini o donne che siano, che hanno studiato per fare quello, visto che devono fare i nostri interessi. Una persona che fino a ieri ha fatto la Valletta o, ma le ripeto, come può essere l'attrice porno, come può essere la commessa, come può essere l'igienista dentale, magari non è il massimo che vada al governo, ma perché non ha i requisiti per starci. Punto. Ma gli amici papponi di cui lei parla, chi sono questi amici papponi? Beh, insomma, ci sono tante intercettazioni, mi sembra, su quello che ha fatto Berlusconi e però signora Grimaldi, di fondo lei, anche lei ha utilizzato il suo corpo per fare dei denari, sì, legittimamente, e ci sono delle persone, delle donne che utilizzano il loro corpo per fare carriera. Ma io non mi permetto di giudicare quello, libere di fare quello che vogliono. E cos'è che le dà ma fastidio? Magari non al governo, se vogliono andare a fare quello che vogliono con Berlusconi per dei soldi, per arrivare a fare la Valletta, ben per loro, lì ci rimangono, ma se devi andare al governo e rappresentare me e fare i miei interessi, gli interessi del popolo, non sei in grado di farlo. Che bello accento bresciano che ha lei, accento bresciano. Non va via. Io tengo le mie origini. Ma di cui lei è contenta che Berlusconi ha preso 7 anni? Io? Io penso che ognuno debba pagare dei propri errori. No, vabbè, d'accordo, mi sembrava molto contenta in quello che ha scritto. Ma non ho capito, lei rimprovera di più, lei rimprovera anche queste ragazze o solo il comportamento? No, ma io queste ragazze, ma io non mi permetto di rimproverare queste ragazze, ognuna è libera di fare quello che vuole. Ma lei l'avrebbe fatto? No, io no, altrimenti. Lei non sarebbe mai andata a casa di Berlusconi? No. Ma guarda che no. Dà un sacco di soldi Berlusconi, ha visto? Sì. Non mi interessa, io. Ma forse lei ha guadagnato di più col porno, diciamolo. No, altrimenti non avrei un negozio, non lavorerei dalla mattina alla sera. Col porno si guadagna, dai, su, o no? No. 25 anni fa forse sì. Quando l'ha fatto lei, no. Cioè no. Lei in 5 anni, 4 anni di porno, quelli che sono stati 2006-2010, quanto ha guadagnato in tutto? Facciamo un po' i conti a signora Grimaldi. Ma anche no, magari ho comunque guadagnato poco. Ma sì, poco. Facciamoli, dai, su, no, ma è tutto trasparente, in queste per cose. Per fortuna io sì, io sono trasparente perché le tasse le ho sempre pagate, purtroppo. Però, non dica così, che poi magari esce fuori qualcosa. No, è impossibile che esca niente, le assicuro. Ma perché si era stufata del porno? Perché si è fidanzata, ha trovato l'amore, tutti così. Finisce sempre così. No, non era, io non avevo più voglia. Non Rocco era un è tornato poi, il signor Rocco Siffredi. Non ce la faceva più, era troppo malato di sesso, è tornato. Tornerà anche lei alla fine, secondo no, me. No, non tornerò anche io, non sto bene così. No, non sento quel bisogno. Io ho fatto quel tipo di lavoro, mi è andato bene per un po' di anni. Nel momento in cui mi sono stufata e non mi sentivo più in grado di farlo, ho pensato che era meglio smettere piuttosto che fare qualcosa che non mi andava e magari con comunque mi è sembrato i prodotti non all'altezza di quello che avevo fatto prima. Va bene, disturba il fatto di sapere che ci saranno sempre questi suoi, domani magari avrà dei figli, no? Ci saranno sempre queste scene, certo, lo so. Pagherò le conseguenze di un come tante persone, pagherò le conseguenze delle mie azioni. Ma la disturba questo? Beh, un po' sì, un po'. Non mi disturba il fatto di aver fatto quel tipo di lavoro, perché se l'ho fatto è perché mi piaceva e lo volevo. Mi disturba l'atteggiamento della gente a volte. Cosa, scusi? Sì, spiegherà, certo, spiegherà. No, spiegherà ai suoi figli, dice la mamma, faceva anche io devo spiegare a mia figlia che faccio questo lavoro con Cruciani, perché è uguale. Spiegherò quando magari ha un'età per capirlo, o se un giorno avrò dei figli, gli spiegherò cosa ho fatto nella vita. Scusa, Parenzo, non ho capito, tu hai problemi perché dovrai spiegare ai tuoi figli. No, dal punto di vista della pornografia, la pornografia che vediamo in scena ogni sera, è uguale, no? Non c'è. Che devo sentire, Grimaldi, grazie, buona serata. Grazie. Omar D'Alecco, Omar. Pronto? Vada. Sì, allora, niente, io volevo dire che dovremmo tornare parlando sul fatto del matrimonio al modello della complementarietà, giusto? Ma che vuol dire? Modello della complementarietà? Non mi faccia annoiare, che vuol dire? Come non mi faccia annoiare? Ascolti, lei è un grandissimo ignorante. Sì. Ma perché? Gli dico perché. Perché lei non ha ancora capito niente della vita, okay? No, nulla infatti. Ma questa ha ragione lei, non ho capito nulla della vita, allora, assolutamente. Sì, ma lei deve andare, lei deve andare. Deve essere molto chiaro e deve essere veloce, perché dobbiamo chiudere, veloce. Allora, anatomicamente, l'uomo è il complemento della donna, la donna è il complemento dell'uomo. Sì. Cioè, a parte questa dimensione, non esiste altra. Lei mi deve dire in che modo un uomo si complementa con un uomo. Senta Omar, ma se lei è bagato in testa, se lei ha pregiudizi ed è bagato in testa ed è rimasto ad anni fa ai suoi pregiudizi su uomo, donna, donna, uomo, non è affare mio, ha capito? Non è affare mio. Cioè, se lei pensa che sia innaturale, allora, non è affare mio, ha capito o no? Ascolti, ascolti una cosa. Sa perché è d'accordo lei col matrimonio gay? Perché? Perché non è lei che andrà a sposarsi, non è suo figlio, non è suo fratello, ma sono sempre gli altri. Sono gli altri che patiranno le conseguenze di queste comunque cose. Lei lo sa che è circondato, sì, lo sa che è circondato. Qualcuno è d'accordo con la prostituzione, perché è d'accordo con la prostituzione? Lei è perché circondato dai froci, a domani 18:30. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica, casa, lei lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente.